Aspetta, il microfono. A parte che passaggi, mi dà di mano messo. Ma che l'hai comprato su me? No, che l'ho comprato da Tecnocomunicazioni, l'apparecchio che è nuovo, in garanzia, confondendi se. Microfono lo stesso. Il microfono è come quello d'Antonio, solo che non funziona come quello d'Antonio. Dai, un vero. A me funziona in diretta, ma fa cosa la giubbo sulle mani io innanzi. Se il microfono è nuovo, gatta, tu mi devi dare un microfono che date in dotazione senza se modifica, o l'hanno rotto magari, e alla sera hanno preso una capsula di microfono Midland, quindi Midland originali, no? Una capsula di quello lì e me l'hanno messa dentro al mio, e ne hanno tolto anche il circuito di amplificazione, capito? Quindi non amplificava nulla. Bianco, un attimo! Pensavo che era neanche qua qua qua come si mise di sentire voi. Però ho chiesto, ma di tu che razza una cina sta messa male. Che è pizzina. Però adesso dice che funziona bene, andrà bene nera. No, va bene. Che bello che è bello. E che bello che è bello. Dimmi tu, un baracchino nuovo, un gatto e mi dà in mano messo, lo metterò. Conosci un gatto mentre è papperino? Piccolino. Quanto l'ho pagato? No, quanto l'ho pagato non ci credi. Ma non è tanto buono in trasmissione, no? In ricezione lo devi provare, non piglia coi più, manco si t'ammazzi. Abbattimenti non conosci cosa siano. Quanto euro l'ho pagato? 99 euro l'ho pagato. Perché costa così, da Tecnocomunicazione? E praticamente c'è forte di cosa di trasmissione, però ci va male di radio, ma cosa mi la viene in mano messo. Il microfono non era come te chi su d'Antonio, compreso là sul discorso. Perché se io metto questo quello d'Antonio, esco un po' più forte di adesso. Ma è macchina, sì. Me? Dico, è macchina, sì, adesso, no? No, che sono a casa. L'apparecchio è quello della macchina, ma sono a casa. Vabbè, vabbè. Ehi, non mi hanno fatto pagare una lira per modificarlo. Che malattia è? Il 795 della Intec. C'ha 20 watt e più 400 canali. Buono. Va bene. Però comunque ha fatto la fare Giuseppe, quello che ho fatto io. Quello che dice così, mi commette lo mio, non si rappresenta così, è costruito come il mio, in te. Vabbè, non ha più cose, però. Cosa va più di me? Niente. Questo c'ha MFM, 400 canali, 20 watt, di più ne russo. Vabbè, io ce l'ho l'opidano. Anche questo ce l'ha l'opidano. Come vuoi dare i canali? C'ha questo. Ciao Bertella. Questo c'ha tutto, anche le attacchi, la macchinetta del caffè ti fa anche il caffè espresso. Cazzo. La pittina. Davvero. La pittina, ma no. No, c'ha la pittina. Tocca la miseria. Ma sei di città, come sta 45? Perché poco fa c'era la portante e ce ne siamo venuti qua, se no le rubiare i cattoli a Pierpaolo. Cata, l'era ben arrabbiato, stava facendo fuori dalle grazie di Dio, stava facendo uscire quel boh, io non so neanche come chiamarlo quello lì. È un asino, cazzo. Mi lo dici, negata, no, si può ciacchi, ciacchi, ciacchi con la portante. E si va, che portatile mia, che antenna pure non ha. E qua non arriva, arriva solo da Pierpaolo e da Antonio, fondo scala, ma cos'è vicino a essi? Se uno non ti dà capacità, ti piace a te, non hai più compreso, è diventato questo, guarda, fuori dalle grazie di Dio Pierpaolo è diventato. Non va bene così, no? E la dicina, il punto non è la ragazza di appartamento. Ma non rubo i vaghi sui balli di burro, se no dalla base della ragione passi la base di tutto, Luca. Ma dove sono gente guata, cazzo, mamma mia! Ma io non so come mi sarei comportato. Se anche troppo calmo e Pierpaolo e Antonio. Ma non avessi un po' di rimone in mano Antonio e li crepa tutti e tre. A chi noi uno, sono in tre e rompi le balle. Quindi entra niente, subito la portante, ma ribatta a Puglia. Infatti ogni tanto ci spostiamo per quel motivo, perché loro rompono le scatole. Vabbè, sei. Se non puoi arrivare a tutto qua. E tu non devi mangiare la gara. E tu si la chiama da Nanzi, di cui di un cappiotto, gatta di girare un capo all'intrezzo, insomma, per Paolo. Perché l'hanno fatto incazzare troppo. No, no. Io so, Natalino, un gioco, ma comunque, non me lo parli a fare un piccuglione. Se non so cosa senti, ho panica anche un timino interno, poi cosa ne so, perché sono in tre sono che gliela mettono la portante. Cadono per uno via per là, a rinfinicato. Cazza, ma... La mi vado di Vintaghi, dopo la raggio, da poi si fa cosa uno che sta a la piega. Per quel motivo no, non si bussi. No, non si bussi. Quindi via, quello che vuoi uscire in piano si fa il massolito. Tanto lui non ci va a tempo. Non è che era l'uomo, un cazzo. Oh, vabbè. Io avrei fatto passare a tutti e qualche dura. Se l'ha andato che ne abbiamo parlato in tua vita. Ma vuoi piacere lo posso disturbare il tuo acqua, faccio la cuffuretti. Aspetta, che cosa sta con il cugino? Quello c'ha famiglia, non è così come ti dici tu, no, Luca. Noi tu, mica ci piazzavo di buone mani un gatto di rovina già vera, chi ci viene? Non hai compreso? No, ragazzi, qua, mi sono guardato. Stavo molto basso, la vedo la concessione. Io non ho ancora. Fino al 31 gennaio c'è tempo a pagarla. Sì che l'ho pagata io. 31 domani. Infatti. Ciao, pure. Che mi manda, esterna e no, obbligata, perché non c'è la staffa, no, che la staffa ce l'ho nella macchina. E così lo posso tenere tranquillo, facendo dall'altra colonna. Una colonna di computer, ecco. Capola un po'. Si sente veramente bene. Aspetta un attimo, devo fare una cosa. Luca, ci sei? Qualcuno qua? Il fischio e beh, parchetto allora ma dove sei Girella? No, a casa sono. Guarda, ha migliorato la radio di questo apparecchio qua della macchina. Ti sento un po' basso. Come mi senti? Un tiro basso. Basso, ma di segnale. Il segnale è buono, in radio appena basso ti sento, rispetto a stamattina. Sì, io lo grido, è un microfono normale questo, sei quello della macchina, ti sto dicendo. Ah, allora già va bene. E io dove ti sto arrivando, fammi da trovo, che sto usando il bombetti. Nove mi sto arrivando, va, nove qualcosa, già sta arrivando bene. Però volevo sapere se era migliorata la radio, perché prima uscivo tipo Paperino, dice che uscivo con questo microfono. Adesso la radio com'è? Oh, è pulita, sì, è buia, è pulita al 100%, qui ci mancherebbe altro. E poi se hai difetti te l'avrei detto, capito? No, prima uscivo tipo Nasino, ma mi ha detto che uscivo. E infatti gli ho fatto qualche modifica a questo microfono perché me l'hanno messo da quando me l'hanno venduto perché non c'aveva la capsula sua. Praticamente mi hanno messo una capsula normale di cose, di quelle dinamiche, invece che, e ci manca anche il circuito, ci mancava. Ci voleva un circuito e una capsula di MPP4, cioè questo microfono in origine. Invece a me me l'hanno dato con la capsula dinamica. Cava, cava. No, scusa, è tutto tranquillo, sta uscendo abbastanza pulito, dai. A voi mi interessava la radio, come sta uscendo, bene? Sì, che sta uscendo bene. E anche a me interessava la radio, come stavo uscendo. Se è la radio mia normale, dai, diciamo così. Perché hanno detto che ha migliorato. Positivo, dai, già migliorato a 100, dai. Qua sì, un Santiago di 9.15 mi sta dando, 9.15 con picchi positivi, radio 5 è buona. Cara gara, no, a me mi interessava che era buona la radio, il segnale relativo. Positivo, no, qua sta uscendo bene, dai, tutto il Roger a 100% qua. Bene, vedi, sono contento che sta uscendo io bene in radio, Ragazzi, carissimo. Da bene, veda, ti ho sentito che stai facendo ridere Antonio Monti, si è pisciato addosso, come mai? Dopo sei in telemedizoma, l'ho venuto a usarlo. Se ne intendi roba grassa, e chi dà la canzone? E chi mi sentivo? Io? Sono contento che questo apparecchietto sta uscendo bene, molto contento. E io lo stesso ho risolto la storia di questo microfono, così me lo posso mettere bene in macchina, tranquillo, e lui va. Oh, è una bomboletta, alla grande, ripeto, per ciò che l'hai pagato, ne valgono tutte. Lui adesso esce bene anche in radio, figurati un po', prima di pari batterino aumenti scivo. Ah, ma già stava uscendo bene anche prima, ma ha migliorato comunque, ha migliorato rispetto a prima, ha migliorato parecchio. Chiara, chiara, adesso già è mascola la voce qui. Quando mi dici così mi fai vibrare. Per perizoma. Ma. Sul 21 Pomola, Cavagara in compagnia di Natalina, avanti Natalina per i saluti a Pomola, cambio. Tutto il perizoma gli ha fatto vibrare Antonio, ok? Ma no, c'è Natalina, qua è tutta una meraviglia, Cavagara. Sì, è arrivato Antonio, Cavagara. Yeah. sentiamoci nel pochino, dai, tutto il Roger da questa parte, riprendi la sala. Ma sei lì? Uia. No, su quello che ho proposto l'altra sera, sul 45, ti ho detto, praticamente così, datti una controllata, l'amico, datti una controllata. Ha cambiato dal giorno alla notte, Comunque complimenti alla serietà di chi l'ha venduto quell'apparato lì, ma guarda un po' fate, se potevano fare lì a fotterne l'amplificazione del microfono, ma io non lo so come funzionino le cose qui. Ma il bello è che sono al buio, guarda, da 1000 euro, no? E 1000 euro sono un'amplificazione, vengono alimentati dall'apparato. E questo qua, un tempone, che l'ho messo alla cassa normale del 48, l'ho svoltato di tutto e l'ho messo così. È una cosa che non si fa quella, io comunque me l'avrei detto da Tari. Sì, infatti io l'avrei telefonato e l'avrei detto. E già lo devo telefonare anche per fare discorsi che non cambiano qua. Capito, invece devono cambiare. A vi parlo da non sciampare. Puro, non funzionano i macovici. No, mi rimane fitto con 400 canali. E si fa, però non cambia. Deve cambiare. Io uso 40 canali normali, sì, devo accessibile, mi ricordo il 40 canali normali, invece no. Purtroppo a volte si trovano anche queste persone qua, che hanno la gamba. Vai, fai che... Positivo, non so se ti occupi, già parecchio. Dopo che sei lì per Massimiliano, per favore. No, ma io lo stavo guardando. 1, 2, 3, 4, 5, Massimiliano, mi ascolti, cambio. Come al solito, fai che... Radio 5, segnale 5. È positivo, ti ringrazio, vai. Ti ringrazio al CIP per fare a te il Mike per far girare la ruota, vai. Cambio. Positivo, che è rimasto, dai, oltre noi, Giuseppe, Natalino, riprendi anche il po'. Prendi tu, Natalaus. Ehia, infatti lunedì la sto telefonando e gli ho ricordato che l'ho preso, la tecnocomunicazione, noi l'ha giubilato così, sui beni, l'ha giubilato nuovo. Eppure si sa che la tecnocomunicazione è anche seria come azienda, Infatti adesso mi faccio passare il tecnico e glielo dico. Magari non è colpa neanche loro, magari sicuramente a casa come gli ha mandato, ora che ci servono loro per il malo a queste cose. Può essere anche che non sia colpa loro, attenzione. Infatti, può darsi che loro prendono il microfono suo, me lo mandano. Capito? Io non è che sto dicendo che è colpa di loro, no? Però a me così mi ha rivinto e così e poi mi... cazzati, e così. Da lì, già in garanzia ancora, quindi c'hai tanto riscontino, quindi loro già te lo fanno anche in garanzia. Magari rompendo le scatole, se no glielo devo rispedire. Quello lì è che mi rompe le scatole, capito? E vabbè, se vuoi il baracchetto messo a posto, bisogna spedirlo. Purtroppo loro hanno sbagliato e loro penso che riparino il danno, dai. No, ma comunque non c'è problema, già te lo fanno, già sono in gamba. Dai. Avanti Giuseppe. Sì, grazie. Massimiliano, io riprendo un attimino per fare 10 minuti di fianco, io sono arrivato qui sotto casa e riprendo fra un pochino impostazione fissa, dai, ci sentiamo fra un pochino, buona continuazione a voi, dai, e saluto tutti senza tutta la ruota, dai, così spero di non dimenticare nessuno. Parrogio, dai, ci sentiamo dopo allora, ok, vai Pierpa. Cosa devo salutare a Giuseppe? Beh, lo siete assieme, non lo so. Se sono qua io con lui. Già mi lo sai, io lo so come te quello. E lo so che non lo so più. Se l'ho lanciato per i saluti, non credevo avere con lui, comunque non c'è problema. Ok, vai Natalaus. Scappala, ciao, tranquillo. Riprenda, signor Franchetto. È positivo, dai. Positivo, accetto. Volevo chiedere una cosa a Pierpaolo, se mi ha fatto quello stagolato, Pierpaolo. Fatemela. Ma se non abbiamo qua in macchina, Positivo, allora, dai. Andiamo bene, magari. Cavolo. Hai sentito là il mio Tanner andando con l'altro apparecchio? Che l'ho collegato a un altro apparecchio. Lei stamattina c'era un ascolto là da lì, però non potevo entrare, là. Non potevo entrare. Una bomba, veramente esce bene. Caffa, col presidente non rende, invece con l'altro a villa si rende. E la voglia che rende, c'è una bomboletta, è di lusso. Oggi ne ho riparato due, da, andà bene mela. Oggi allora vuol dire che ti sei messo l'impegno. Intanto rimane, non vi sono riuscito a piazzarlo, eh. Il Turner mi ha fatto diventare matto perché c'ha... l'ho attaccato a una prolunga infatti, perché gli ho dovuto adattare questa prolunga perché c'ha lo spinotto a coso, a tipo quello del telefono, mi capì? E mi ha fatto crepare quel Turner a metterlo, cioè adattarlo a quell'apparecchio là. Perché no, quello spinottino lì non lo puoi togliere e mettere lo spinotto normale? No, perché l'attacco del baracchino c'è quella piccola. Ah, cava. Avanti con la portante, chi è? Avanti, chi ha cercato di sopravvolare. Giuliano! Dimmela! Tu che me l'avevi richiesto una tabella dei canali. Una tabella dei canali? La tabella dei canali, tu eri, che me l'ho richiesta. No, negativo, io no. Sì, a te non so perché, ma c'era un altro che me l'aveva chiesto, adesso non mi ricordo chi era, so anche uno a me. No, io ti avevo chiesto, se ti ricordi bene, per un'altra cosa, va, capisci a me. Mi serviva con le frequenze rame. Ah, no, e beh, perché non te lo volate? Chiaria, ma pure se da quello non mi serviva altro, capito? Dai, io ne approfitto qua un secondo che devo chiudere perché mi stanno chiamando, là. Cioè, riascoltiamo a più tardi se coincide, là. Ciao ciao a tutti. Faccio la taglia di piano, faccio un po' di carichetta, sono rientrato subito, eh. Ok, la taglia. Gara, che ne sono perché? No, mi faccio solo un panino e non è che faccio queste grandi mangiare. Un panino giusto per spezzare un po' l'appetito. 18 e 21, vai. Dio, capo! Microfono amplificato, vai forza. Ah, no, beh, adesso stanno aumentando di più. Adesso pompa di più così, beh, è tutta un'altra finestra adesso. Prima la pasta asciutta adesso me ne fai fa giù. Andà bene, vedo. Raga, ma... che schifo come gira. Venga se gira. Tutti sono abituati con questo lecca a lecca. Oh, yeah. Non emettere, ecco che, mamma mia. Io già l'ho capita, Pizzo. Simo? Maria che freddo! C'è freddo freddo, ma sta lì, troppo? E a me lo dici, che sono ancora coricato, e non mi dà sicuro i disamini, la crepici del bacino. Forse non stai andata lì. Già stai uscendo. Ogni tanto la sarò male, dai, che microfono, buh. Sì, che ti ha prodotto la spazzatura. Ma se lo primo problema mi date, mi ti l'ha prodotto. Vabbè, la vediamo. Quello di diventare tutto non è più compreso. Microfono. Secondo me è il filo troppo rigido, questo bisogna che io lo cambi, perché non va per niente bene, questo filo qua è troppo rigido e mamma mia, avevo usato Antonia, ha modulato il filo, ma la fusata te lo compri nuovo, il filo di quelli morbidi, e te lo cambi. E così però, perché non serve a niente questo filo, Che lo prendi e ce lo butti nella lavandetta. Gappa. Bene, infatti faccio proprio così. Il lungo e morbido. Gaba gaba. E poi vieni se gira. E così faccio la tariffa. Hai pizza? Non mi dovevo più mettere il capo nel buco. Poi c'è l'altro microfono, è bello, morbido, fine. E si allunga e non mi dà problemi. Chi se torce della palla, Questo è... Non è tanto morbido, ma è lungo e non si rompe le palle. Positivo, accetto. Regga, io, terrazza di fredda, ho sbagliato una moto, ma mi gioco pisciato in tanto, troppo freddo, ma se aveva fatto un poco di neve, non aveva fatto meglio. Nadu. Dovrebbe fatto un po' di neve, era fatto meglio. Sì, cazzo, con la neve da poi un po' i macchi sci, secondo tanto ne vado. Vabbè, ma non è che vuoi stare tutto, c'è un freddo che fai. Ha messo il tempo brutto, anche per il là, peggio. Qua, ogni agacco, mi sa fatto che mi sta venendo un po' d'abbacchio. Abbacchio dove vieni, Natale? Mi sto abbacchiando. Mi sei dormito dopo pranzo, ma? Morello? Cosa non ho capito? Tanto cos'è? Si è addormentato dopo pranzo. Ma negativo. Ah, per quello che ti stanno abbassando le serrande adesso, Sono le serrande abbassate. Andà bene, Natali, fate un riposino, va, che è meglio, che almeno sei più fresco come una rosa più tardi si entri. Mi sa tanto che farò così, che è la gara. Idea, va bene, va. Va bene, vita. Però ci sentiamo più tardi, vanno chiuse, così dopo. Vediamo un po'. Va bene, va. Allora, buon riposo, va. Poi sarete più tardi, già siamo a casa. Va bene, vita. Buon riposo, Natalino. Faccio per due che vuole entrare, che è la gara. Aiutalo, se per peccato sapere la volta per via. Ah, Tito, buon pomeriggio, se mi vai ascoltando, cambio. detto a Antonella Componi o se mi va giocando? Giuseppe, a Pesese? Ha detto Giuseppe se mi scucci cambio. Up there. bella. Quando mi dici così mi vibra anche il pedizoma. Ti faccio la pizza tu. Già, già ti compro bene qua, già te la compro bene. Comunque rende molto meglio in questo palazzino il coso mio. L'M300, ok, ne ho fatto sì. Positivo, ma dove gli aspice bene, attore, aspiceno bene. E anche più caro la radio, invece quando era attaccata con l'altro palacchino, come ti ho detto io, l'altro bisogna modificarlo di LC, se no non lo vende. Tappa, tappa, già va bene, va bene bene. Metti le comodezza? Adesso sono la vita. Sento solo quando pensavo con il dritto. Vabbè, va bene, dai, manco un attimino, come senti la modulazione? Perfetto, 5. Vabbè, giurai. Via. Ciao, ciao, dai. Dai, dai, ci risentiamo dopo, brava. Sì, salta Giuseppe, che si è sentito, si è sentito sotto. Ciao a tutti di nuovo, da Giuseppe, ce l'ho visto dopo, se coincide sempre, ciao, già coincide, gamba, positivo, là. Ripresi Mongolio, dimmi, sono tutto qua. Ho detto, insomma sta spingendo bene adesso, dai. Adesso spingete le già non credo che spingi, te l'ho detto. Basta per dire le C, il tuo l'ha chiuso, te l'ho fatto come ho fatto a Mario, guarda se pompa le palatine, il mubico. Poi vat, a voi che passa a vat. Già va bene così allora, dai. Allora, ti volevo chiedere una cosa, il coppo e il filo lo cambiamo, tutto. Il filo, quale filo? Del bike, compro il filo nuovo. Ah, sei fili devo comprarlo? Antonio! Che mi sembra che ne ho 5, sì, non mi ricordo che sta prestando, mentre c'è. Dovrebbe essere comunque a 5 mi pare che, a 5 a 6 comunque. Antonio, come sta uscendo con questo? Di radio più forte, di segnale uguale. Già, ma com'è la radio buona? Figlia. Capo, adesso una prova. Papa dava. Capo, continuando. Continuate, adesso una prova. Positivo, positivo. Forte, piace da questa parte. Sì, telefono. Adesso tocca il filo nuovo, così lo capiamo. Dovrebbe essere sì, però, figli, ma no. Aspetta che controllo. Aspetta una seconda. Positivo, dai. C'è una cosa che ho detto da fare, bisogna fare quel coso, no, agganciata. Domani la faccio, la provo, vediamo un po'. Freddo c'è perché c'è, però non è freddo secco della neve, Adesso qua addirittura sono 9 gradi. Secondo dove ti sposti? Aumenta? Gappa. Gappa di Rogero. Dice anche QRM nell'aria, c'è molto QRM nell'aria, fa che? Si sente. Ma magari. Come mi ascolti tu lì a Sassari, Gavolo? Bello, dai. Bello di lusso, va abbastanza bene. Ma senti queste scariche che ci sono, Falche, nell'aria? Io sento delle scariche allucinanti. E di solito qua ti sentivo benissimo proprio, e invece oggi è un po' tribula perché ci sono queste scarichette. Gappa, vedi un po' se stai scaricando ancora, vedi un po'. Adesso è migliorato, Falche, dai, adesso ti ascolto molto meglio, a voglia. E c'era, quando stavo a lavorare, c'era Antonio, Natalino, tutti quanti erano sul 45, perché c'era sempre il solito rubi di scatole, che stavano anche dalla portante, allora sono passati sul 45. Io stavo cercando sul 21 tutto il viaggio, aspettavo che entrasse o sul canale 5, e poi alla fine sono andato sul 45 e erano lì. No, io non sapevo neanche che erano sul 45, più durato un po'. E io ho fatto una spazzolata per vedere se c'era qualcuno e l'ho trovati. E vabbè, gava. E Marco, non si è sentito nemmeno coso, ma Giuseppe. Ci siamo visti con Giuseppe stasera, che era da Pomponio. No, ma gli ha fatto tutto? Sì, gli ha fatto tutto. E l'altro apparato che ha portato, Dio, l'ha fatto? Se ne aveva apparati, due. Io non so, uno è mio, una è la roba mia. Positivo. Siamo fatti tutti e due, dai. E non io. Come? Uno è mio. Essere sì. Allora è stato bravo, davvero. Positivo. E non è tanto Pomponio, no? Era l'apparato Pomponio. Era l'apparato qua di chiamata, a vedere un po' se lei. Attento Pomponio. Attenzione Alessio, se mi ascolti, capo. Se sta lavorando già, sta lavorando. Ma tu fermo sì già. Ma ti fermo sì? No, sto camminando sempre. Ah, cappa. E mi compi sempre bene a me. Ehi, qua ero a Monterraso adesso, in alto, più in alto sì, più segnale forte. Positivo, là. Positivo accento. Ma dove è montagna, segnale ci guadagna. Positivo. Cosa volevo dirti? Ma tu c'hai il microfono come il mio, Gianni? Sta carina per freddo, scimmi, c'è freddo davvero, io sono senza voce, lo sai. Ah, se te lo metto che c'è freddo. Dai, dove? Già si sta meglio a casa, con la stufa accesa, con il riscaldamento di lusso. Lo credo bene già, c'è troppo freddo. Oh, ma cavolo. Andà bene, veda. Hola. Attenzione, canale 21, c'è nessuno? Vado. Co. Beh, adesso è un po' che non lo facevi, Falche. E cos'è che c'è cosa? Sì, te lo fai da Marco. Sì, ma questa cosa con quattro fari, piccolina, che cacchio è? E una macchinetta degli sinofi, dici, mamma mia, chi c'è? Attento alle ranocchie. Non è che non si sa se sono una macchina o moto, di quelle che hanno quattro ruote, ma pare di moto carrozzè. Capparocelo. Mi sta allontanando, no, ci volevano i quattro fari dietro, perché dopo si è raggiunto lui. La lì a quattro, la lì. Gava. E poi non capisco, sono 500 e le puoi guidare senza patente, quello che non capisco è quello. Perché Massimo non si sta battendo in mobiliare 50. Non capisco il perché un 500 possa essere guidato senza partenza. Infatti, tutto fa parte del denaro, capito? Le prima volta lo state, portate per me vinti. Che c'hanno delle strutture e poi la gente se le toglie e camminano bene, capito? Quelli furbi se le fanno togliere e camminano, c'hanno dei limitatori di velocità, ma se quelli li liberi, guai. Kappa, è vero quello, è vero. Da voglia, e tu la macchina contata di la fatti? No, negativo ancora. Ma per prima è? Per prima. Guarda, però è freddo andare in moto, gatta, è una cosa, quasi un omicidio andare in moto con questo freddo. Kappa, le fitte se lo metto a posto, non mi interessa niente, esco in macchina, se no guai. Ma io ci ho fermo la moto, la moto io la utilizzo per istante, con questo freddo non fa, ma come c'era la prima novena in poi la utilizzo, la metto da parte la macchina, poi la fermo e utilizzo la moto. Ma Kappa, dove sei arrivato già? Adesso sono una po' di butti. Kappa, infatti sta aumentando il segnale. No, arriva del sole, capo. Sta aumentando il segnale, dai. Dai, va bene, dai. Ho visto, ti ho accompagnato la produttore, sì? Dai, già ci arrivi, sì. Già arrivi. Anche se con l'altenino lì, deve essere la zona buona, la tua, e arrivi. Ah, magari, sono contento, Almeno ti faccio compagnia. Ma arriverai con un segnale, non lo so, ma ci arrivi, pensate quello. Infatti, già. L'importante è sentirci. Infatti, adesso poi ti sento chiaro, andare in Porto Torres c'era un QRM allucinante, adesso invece ti sento però chiaro, È positivo, va. Positivo accento. La sera nulla fa idese. No, non lo so. Stasera è giornata di scaldarsi, mangia le faine. Vino mi, capita, sta in casa, voglio da fare niente, prendi vino e ciccia. Allora, a me ne ho la progetti di caldi, e quella poi, oh! Ma se mi fretta, allucinante! Ma che? A te la metà voce da fare niente, già! Mamma mia, non me ne voglio ammettare! A me mi ha fatto male un bel, tante volte sono stato male! Ma tutti quanti, da voi ce l'hai il tappo dove ne caga in mezzo. Lo conosci ma ne caga, quello che mettevano nelle gambe della frutta, quando la staccavi andava a mangiare senza la farla, senza ti acciappavi tutti in fila. Così. Ah no, capito. Non si doveva essere chi sa bene, non è questo che sa cosa in mezzo. Cazzo, non è possibile. Infatti, non è possibile mangiare un pezzo di vaina e farti male, Ma che sì che ti fa male, quello è normale, perché i ceci lo fanno, perché mettono aria nell'intestino, però canta farti quell'effetto lì tutta la notte andenti. E pittà, allora si è aumentato il segnale, sei 9 e 10 oscillante. Kappa, sempre la buttitudine da parte mia. Adesso scendo, e il segnale scenderà sicuramente. Perché sono a Rio Gabbaro. Ah, l'hai discesino? Kappa. Ah, vabbè, ma poi prendi il salettino. Prendi il salettino di Rio Gabbaro. E saliamo di nuovo. E di nuovo il segnale ci guadagna. Kappa di Rogero. Infatti si è visto, si è abbassato, adesso lo smitter. Ma con questa antenna, come questa antenna non viene, io qua, ne ho avuto tante, ce n'è qualcuna che si può assomigliare, ma secondo me questa qui è una delle migliori. La pagava, tu ce l'hai 2001, no? La pagava. No, già è buona l'antenna, io voglia, si abbassa un po' segnale, ma poi si rialza, Ma quello non dipende dall'antenna, quello dipende... dagli avvallamenti, da queste cose qua. Se questa qui tu la metti fissa, il segnale rimane sempre così. Kappa di Rogero. La sedetta è la fatta, dai. l'hai fatta? Perché? La sigla stavo facendo, portando poi Marcolino è venuto e mi ha fatto boom, mi ha fatto spaventare, mi ha fatto svegliare il soprassalto. Caccio, non vai, la giubilata da parte, ma deve fudere, ma se ne fuggì. Marcolino, Marcolino. Tutto svegliare il soprassalto, me lo trovi. Posso immaginare già, quello posso immaginare. Fatto boom! Ma una volta questo ragazzo che conoscevo è un po' cane di giocazzato, un po' cane di troppo. Siamo andati al mare, ma non fanno più pochissimo, si fa di passare a casino. Mi erano drummenti al mare, in casa si è avvicinato e ha fatto così si è svegliato, cazzo ma non è come ha fatto, tipo il giorno quando esce dalla scatola, che poi che c'è la molla. La prova erano picchenne. È andato sott'acqua, ha tirato la lenza, quello li prende, muo' tirando subito la canna, pensava che era il pesce. È una scena, è una scena qua. Per quello ho detto la moglie che quando si sono sposati, sono andati in albergo, un ragazzo ha fatto scherzo a tutto andare. C'erano dei tedeschi che ci erano buttati nella piscina, erano un po' una piscina tutti in abito, voleva far lì già per andarsene. Ha pigliato le pitrute, ha fatto la piscina. Ma poi ha pigliato, ha legato gli anni una con l'altra, una di fronte all'altra, poi ha bussato tutti e tre, chi gli andava nella briga, se lo riesce nella briga, chi me l'ha legato in quel cannavo. Qua lì che ne ha fatto tutti quelli, allora quei tedeschi per vendicarsi, io l'ho visto lui, il porto piscina, e ce la ricutiremo pure a lei. Ah, ecco. Ah, vabbè. È un carosello, non si può uscire con Ghiscio, Ghiscio è di combinare, come bambini, per non la peste, ce l'è presente, sta sempre facendo scherzi così. Gava, gava. Beh, già ci vuole ogni tanto già, per alzare gli animi. Esatto, ma sì che trovi quelli che ci stanno, lo scherzo, ok, se trovi quello che si incanta, che mette le mani addosso, magari, è brutto, eh. Ah, beh, quello sì, quello già è brutto veramente. Ma finché ci sta uno a scherzo già va bene, va. Se Topolino si chiama, ma si combina tutti i colori. Topolino perché passa, ma oi oi, canto ne combina. Gava, gava. E dove sei arrivato già? Noi siamo riusciti a nel chilometro, cazzo! È positivo, allora sei già vicino al QTH, va. Esatto, quasi arrivito. Adesso come arrivo mi devo lavare, cambiarmi e devo uscire. Chiappa chiappa. Sì, devo la famiglia? Sì, devo uscire con i cognati che sono arrivati da Urbia, con mia moglie, con i bambini. Poi dobbiamo trovare un'altra coppia, insomma dobbiamo andare in qualche posto, andremo a mangiare la pizza, poi non lo so. Cappa cappa, già va bene là. Stasera ti devi rintanare, stare all'aperto non fai. Se non ti rintanare mi libero da qui. Da cosa sto dicendo che ce n'è da ballarsi i denti, guarda. Ce n'è da ballarsi i denti già. Vabbè. Oggi è la volta che mi metterò il montone. Ce l'ho sempre appeso, non lo tocco mai, ma oggi me lo pongo. Anche se bisogna andare qui in Italia non me ne ho fottuta. C'è un montone che ho pagato una barca di soldi e non l'ho mai usato, lo uso pochissimo. Ma oggi mi sa che ci vuole quello, Ma oggi sì, oggi già fa piacere, sai che tu qui, c'è di pigiare chi da che. Lo so, il montone è pesante, però ti ripara parecchio, Senza ombra di dubbio. Quello ti scalda, non scappa. Pagappa. Beh, è una bella invenzione quello lì, è pesante però lo scalda molto. E poi tutto è pellicciato dentro. Tutto è pellicciato, non è che è foderato, ma è pellicciato. Ah, sono foderato il pelliccio. Cava, cava. Cava di oggi. E allora mi pare l'avessi pagato 1.200.000 lire di quel montone lì. Tutta una macchina di rame, non ti credi che sia proprio un pezzo. Lo so, già lo so che costano. Magari ci vogliono, dai, con questi giornanti così ci vuole. Mario fa che, già lo sai, a me mi piace più vestirmi normale, a me questa roba dell'eleganza proprio non mi piace i camici, non mi piace, poi mi piace vestirmi più sportivo che vestirmi in abito e cose così, mi sento legato. Positivo, lo so, lo so. Augusti, dai. Ragazzo, ok, ti saluto, io sono arrivato, mi sto entrando in garage. A non sbidere. Pagiano, dai, salutoni, buon tutto, dai, buona passeggiata e buon tutto, ce la riascoltiamo nei video. Ciao, già. Ciao, ciao. Salutoni Giuseppe, ben sentito, ben ritrovato. Antonio? Come? Ma te li vuoi andare da sotto casa che mi stai spaccando lo smitter per cortesia? No, c'è quasi arrivato a casa, tu sei sotto casa. Ma che sa cosa prendi un giro e mezzo qui mi? Dimmi una cosa un po', come ti sto arrivando? Siamo uno scala qua, benissimo. E K di positivo, vai. E a te Falchi, tutto ok? Tutto Roger a 100 e tutto Roger a 100. Questo passaggio non sei uscito. Come si chiama la retro? Mi senti a me? Bene, bene, bene, tutto forte e chiasso. Ho pulito la sella piccolina, come va? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Va troppo bene, Antonio, va troppo bene. Buonasera signor Pomponio, qui arriva forte e chiasso, cambio. E lui c'è a casa tua? E K, Pompo, a casa stai arrivando con una radio bellissima. Ah, sono contento, meglio così allora. L'ho graffiata tutta la terra, la fazzetta, roba mia, mi casino. La mia, com'è? Prova. Sei una, due, tre, prova, una, due, tre, prova. Passo la radio, come a posto, adesso non mi fa più di quelle fuggio. Sì, se lo sto facendo. Sto facendo? Sì, ma appena appena però, non molto. Non so quanta messa a mano, controllato, come, non lo so, da quella cosa, è appena appena, così mi detto. Sì, ma lo sai il microfono, senz'altro, a fruttettini. Ok, non è importante che si senta, ho detto quella cosa, non controllato, saltato, fatto, rifatto. Buonasera a tutti, comunque, riprendi Giuseppe. Voltatevi a tutti. Che poi passo io a correre e carico tutto. Buonasera, buonasera Capri 2, ben sentito e naturalmente cordialità da parte di Giuseppe Tornado. E qui Capri 2 sta arrivando con una radio splendida e un Santiago di 5. Io mi auguro che duri così sino alla fine delle trasmissioni. E niente, rilancio le maniche a Mario e anche a lui do il benvenuto e naturalmente una stretta di mano. Riprendi tu Mario. Io sono arrivato, dai, vi saluto. Ci risentiamo dopo. D'accordo, d'accordo. Buonasera a tutti, belli e brutti, io saluto tutti. Ciao, Vela 1, ci sentiamo presto, vai, poi magari ci sentiamo dalla postazione Pisa, cambio. Ecco! Avanti il breco, avanti il breco. No, hanno breccato dentro, avanti il break. Avanti il break, il mic è per te, avanti. Un attimo di bianco, mi squilla il telefono. Break. Avanti il break. Buonasera, buon lunga da questa. Buonasera a tutti, a tutta la ruota. Buonasera Massimiliano, buonasera anche a te, ben trovato qui sul 21, in compagnia del buon Pomponio, Capri 2, Mario e vediamo qua. C'era anche Pierpaolo, però riprende la postazione qui. Sarai, riprendi tu Capri 2 per i saluti e fai girare. Ok, buonasera Massimiliano, saluto anche a Mario, a Pierpaolo, dopo l'ho fatto un saluto in generale. Sono entrato adesso perché stavo alleggiando sullo spilotto, ma sembra che si sia risolta la roba, non è che mi piace molto questi tipi di spilotto, questo è di quelli più moderni, l'altro che ne ho, poi li cerco e li metto mano di nuovo, perché come affittatura c'è strana e non è che sia molto soddisfatto. Mario, come ti arrivo? Ti rimetto il cambio, vai. Io quando moduli tu sento un leggero disturbo sotto, una specie di piccolo innesco, roba del genere. Comunque la radio è l'ultima, non ti fa avanzare. la radio ultima Super 5, il segnale non l'ho visto. Il segnale va, mi interessa, guarda il segnale. 6:30. Già sta andando, vedo come si chiama il dottor, non mi piace il condensatore di questo microfono. Il mio porno lo cerco con 4 pinghe o cambio, no? Perché anche ci gioca qui e ci gioca sull'apparecchio e questo, ma a me non mi è piaciuto, ma stavamo sempre modulando qua questo, ma va bene. Ok, avanti Massimiliano. Positivo, vai, ciao Caperuo, ciao Mario, buonasera per ascoltato. Ho la speranza che mi ascolti qua in Caperuo, non so se riesci a tirarmi fuori, io sono MM. Ti ascolto Massimiliano, ti ascolto, e come? Sì, ti ascolto, ti ascolto. Adesso rilanciamo la svelta, che posso rilanciare a Giuseppe, perché Starchetto dove c'è una telefonata in corso, quindi avanti Giuseppe. Sì, positivo Capri 2, e confermo una radio Super 5 oggi, veramente, veramente bella. E cosa dire, bella, limpida, e sembra quasi un sogno riuscire a tirarti fuori così oggi, visto che in qualche maniera, bene o male, ci si sentiva sempre con qualche piccolo fruscio, qualche piccolo disturbino sotto. Però diciamo che oggi stai girando alla grande. Riprendi tu Capri 2. No, c'era un piccolo, appena appena, un piccolo innesco, l'ho controllato, ma è tutto ok, il microfono. Sembra che lo sopporto, c'è gioco lo spilotto, quello c'è lo spilotto, sì, è simile agli altri cose di piccola abitatura, però sempre c'ho dei dubbi che sia da quello, e va bene, poi cerco di quelli che gliel'attacco. Antonello, ti stavo dicendo, su 78, mi ho smontato il microfono, mi ho smontato, e non riesco a trovare il coso dove fa funzionare la, diciamo, la modulazione, il contatto. Brecco. E poi non rispondi, avanti il Brecco. Sì, buonasera, era Federico Cappi, ciao Gianni, ciao Giuseppe, poi c'era... chi c'era poi? Forse Mario. Comunque Capri, c'hai sempre quel problemino solito. Prova a fare come hai fatto stamattina, abbassarti un po' il Mickey Game dell'apparato. C'è questa specie di boom sotto, molto forte. Aspetta invece che io faccio una cosa, aspetta un attimo, che le leggo il coso di che c'ha... però mi sta facendo contatto dentro il, come si chiama, lo spinotto. Io non voglio sapere se c'era quello, un attimino. Ma non deve essere quello, è questione di saturazione poi. Saturazione? Aspetta un po', allora. Adesso non lo sta facendo, ti ho detto che si è troppo amplificato di radio, sta rientrando, prova a abbassare il Mickey Gain dell'apparato però, non del microfono. Passato. Adesso sei a posto, prova a parlare. Ora 1, 2, 3, 1, 2, 3, prova. Lo fa più però sei troppo basso di radio, alza appena appena un po'. Ok, adesso... voleva ancora un po'? Sì, io come sto uscendo? Già sto uscendo la grande, aspetta un attimino, prova di nuovo Capri. Hola, hola, 1, 2, 3, prova. Alza ancora un pochettino, sì, così a quanto puoi arrivare. Hola, hola, 1, 2, 3, prova. Prova adesso, manda con l'altra, è importante senza parlare. Sembra tutto a posto, il segnale è quasi 9:20 da questa parte. È rientrato Antonello? Avanti Antonello. Via, come sto uscendo non si è sistemato un pedido dell'antenna, l'ho pulita. La base della stazione è andata ruginosa e non conduceva nulla. Come sto uscendo? Da parte mia il segnale è quasi 9:40, cioè picchia 9:40, radio Super 5. E gli altri come sto uscendo? Ma se avete parlato due, avanti Capri. Ok, 9:10 mi stiamo arrivando, come? 9:10, va bene allora, sì. Meglio peggio degli altri giusti. Stai innescando, Antonello? Allora sto uscendo peggio. Aspetta un attimo, riprova. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Adesso è andato tutto bene, ok, va bene così. Oh, scusate un attimo, ragazzi, quelli. Avanti, Massimiliano, ciao, buonasera. Ciao, Roberto, buonasera, ben ascoltato, ciao, Antonello. Riprendo io che chiudiamo un po' le trasmissioni qua, facciamo una commissioncina e poi ce la riascoltiamo più dopo, dai, vediamo se scendendo al ghetto mi ascoltate sempre. Ok, dai, di nuovo vi rinnovo e saluto a tutti, ciao ciao. Massimo, a me ne sto salendo dal ghetto, è un freddo di cacchi sotto, ma freddo, freddo, aria gelida, c'è un vento, mamma mia. Sì, noi andiamo a vedere il vento del turismo, mangiamo, e lì già ci sarà caldo, e se c'è freddo ci scaldiamo. Beh, basta muovere le mandibole, riempiendo di mangiare, vedete ti cacci, non c'è problema, dai. E avanti i capri per Massimiliano. Sì, ciao Massimiliano, buon tutto, buona carica lì per il turismo. Mangiate poco, bisogna stare in linea, riprendi Giuseppe. Sì, ciao Massimiliano, buona carica anche da parte mia e buon tutto. E niente, ci sentiamo alle prossime quando coincide. Ciao Massimiliano e buon divertimento. E avanti con voi. Senti Giuseppe, come stai arrivando? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qui sta arrivando alla grande, non ho niente da dirti, troppo bene. Ho pulito la basetta, la sena, quel pezzettino di coso. Mi sta sempre trovando problemi, sembra che boh, ma di bene adesso, no? Non lo so. Ecco. Sì, avanti Beto. Buonasera Roberto. Ecco come che sei così massivo Roberto stasera. Ma di che cosa? Ah, di verdade, è stato basso. Era un po' lontano, sono un po' lontano, sono rilassato, dai. Normalmente sto un po' più vicino. Ah, ciao Padre, comunque salutoni, dai. Ok. Riprendi tu, lo puoi far girare, dai. Ehi, scusa un attimo, Gianni, Capri, quanto ne stai dando per curiosità? Sto suonando, sì. E quel San Genio me l'ha dato guasto l'amico, e non mi ha voluto l'intesa riparare, l'ho fatto lo sciacolino, ma poi... Io ho messo mano io, qui quando parlo supera diciamo un 150 wattish adesso, e però adesso sto andando con 100 e qualcosa. E di pilotaggio quanti ne sarà? Capito? Di pilotaggio. Pilotaggio dunque, aspetta un attimo, mi scusate. Ok, 4 e mezzo. Va bene, dai, già sta andando alla grande, quasi 9.20 il tuo segnale qua. Beh. Avanti Luca. No, allora controlla me, guarda un po'. Vai. Ma di radio o di segnale? Segnale, segnale, radio, vabbè, sempre la stessa, vai, segnale, come sempre lo stesso, più basso. No, no, 9 più 30, va benissimo. Ciao Gianni, Capri 2, ciao a tutti, non so che ci sia qua. Ciao Luca, già ce la sta, mi avete fatto battagliare col microfono, no, anzi, siamo la voce precisa con Salverio, e infatti a lui l'ho scambiato per te, a te ti ho scambiato per lui, no, niente lui, tutto ok, sì, tutto ok, lui arrivi sparato, arrivi, la radio qui non se ne parla, riprendi e fai girare, io ti arrivo bene, non c'ho nessun innesco con l'articolo di modulazione. Tutto segnale 7 qua, radio a bomba, Capri 2, non c'è problema, tutto Roger qua. Ok, perfetto, perfetto, facciamo subito girare per qualcosa, avanti a tu, Capri 2 ti rimetti il cambio con la buonasera sempre. Appa, di lusso Capri 2, di lusso, ti incontro, cambio i saluti, buonasera anche a te, dai, e ben entrato nella ruota della fortuna, dai. Riprendi tu il mic e fai girare Capri 2. Ok, facciamo girare, quale ci abbiamo dimenticato, che c'è anche Mario Marcel. C'è Mario Marcel, le rimetto subito il cambio, adesso Mario è cessato quello innesco, confermi anche tu. Carta di positivo, tutto a posto ora. Ve ne approfittate, a me vi dimenticate perché io sono piccolo e nero. Ma vedrai che già cresco anch'io. Non è così, no, a te ti addebito qualche smitter qualche giorno. Che non sei così cattivo. Quando lo ecco. Registrato il break, un attimo. Parecchia parola, ci ho messi. No, quando modulava arrivava proprio la gente incollata, incollata, ovvero se sentava tornare indietro poiché finiva di modulare, proprio a chiamate? Chiamate. Prego, mi senti? Sì, chi sei? Carburo, me lo fa un controllo per piacere. Ma di radio di Santiago? Che radio che è Santiago? Io 5, Santiago 9 più 20. Grazie mille. Ma come stiamo durando, che cosa sei? Sulla stazione Alghero. Auguria, sarà dalla grande, ottima radio, ottimo segnale. Se vuoi capire, non ci sono problemi, qua c'è, c'è in compagnia mia Roberto, poi c'è Capri 2 da, da Muros, c'è Falchetto, Sassari, Luca, Mario e Giuseppe. Avanti Giuseppe, prendi tu. Sì, grazie Robè. Colgo l'occasione per salutare gli amici che sono entrati in ruota adesso, anche l'amico che stava volando dalla strada di Alghero arriva qui bello a bomba. Complimenti sia per il segnale che per la radio, veramente, veramente chiaro. Niente, io rilancerei subito il mic a Falchetto e approfitto per fare 10 minuti di bianco per una piccola commissione. D'accordo. Ecco, appagato. Io ne approfitto a rilanciare il mic a Pompone, va. Prendi tu il mic a Pompone e fai girare. Ecco, San Cugino, questo Carburo, guarda, ogni volta che lo vedo mi viene un'antipatia, non lo so io. Sempre in giro in macchina, eh. E allora, sempre in giro. Ciao Carburo, l'usato che ti ha fatto? Un'altra cosa. L'apparecchio è a posto, ti ho cambiato quella roba e funziona, non c'è nessun problema adesso. Quello come sta andando? Bene, il gemellino. La bomba, mi sono arrivato oggi da Cagliari, dopo ero tutta la settimana fuori, vabbè tutta la settimana, questi due giorni fuori, però sta funzionando alla grande. Io credo che funzionerà alla grande quello, quello è modificato dentro, come l'altro, altrettanto. L'unica cosa è che mancano i cavalli di sopra, c'è solamente normali e di sotto. Comunque va bene. Perfetto, allora nel caso domani passo, così mi dici il danno e nulla, facciamo un cambio di nuovo. E va bene, c'è solo a casa, non c'è problema, non è a dire. Passaci, che non c'è problema, l'avevo già messo a posto per tuo. L'altro giorno, cazzo gli ha fatto un buco di telefono, io te lo faccio vedere già. E anche il condensatore è quello, vai, ci sei salvato di poco, di solito quando fai... Quando c'è il cuito salta la roba nell'internet, ma sei stato fortunato che è stato subito. Dico così, e Fabietto, sentito l'hai? Fabio è passato ieri sera a casa per contare il tiro suo. Io a casa mia sto facendo affischio perché c'ho prodotto di antenna io. La prota che si sveglio è a posto, non c'è nessun problema, è tranquillo. L'ha provato, c'è bene. Ed è contento di quella scelta che ha fatto. Ok, se pide tra Mario, fai girare. È importante non girare il capo, la buona ora si è girata giù là. Ah, vero, eia. Beh, ma il coso, il mio, il coso, va a Pannacqua, adesso non mi viene. E Mobicon, tutto a posto? E è proprio così, tutto va a posto. Il microfono Mario è il problema. C'è quel modulometro che l'ho tirato e adesso vediamo. Per adesso funziona benissimo, è a posto. L'ho modificato come l'ho modificato a Falchetto, tale uguale. Ma siccome è dopo come il Falchetto ho fatto. Prima hai fatto l'esperimento su me e poi su quello di lui. Andà bene, cane morto. Gli esperimenti però fagli sempre in quello degli altri. Così se ti sei compito c'è un po' quello degli altri. Non è il mio. Modello Mario. Perché tu stasera si sente la differenza quando ho fatto l'apertura della ricina, se è succulato con le metro accento. A proposito del M300, tu c'hai sempre il mio M300. Lo so, dicevo di sempre più M300. C'è il coso da una specie di... Il difetto che c'ha sempre del M300. C'era anche lui, quel cavo di PTT, il problema è solamente quello. E basta. Lo riprendo io, vado a fare carico batteria, ci sentiamo dopo. Ciao a tutti, in generale. Ciao, già, ci sentiamo alle prossime. Giuseppe, riprendi. Giuseppe ha dato 10 minuti di coso, di pausa. Ciao Gianni Capri, ci sentiamo più tardi magari se ci sei ancora, se ci sono ancora io, ok. Vai Mario. Ciao Capri, tutte le prossime, buona carica e buon tutto. Giuseppe non c'è, Falchetto lo stesso, si è assentato e niente, cosa vuoi a dirti? Riprenditela tu, Robè. No, Falchetto è rientrato, dai, salutoni Gianni, dai, Capri 2, buona carica, buon tutto, ciao Mario. Aspetta, facciamo un attimino di bianco, una chiamata generale sul canale 21. Attenzione, 21, chi vuole entrare, ecco la buonasera, avanti. Dai, riprendi tu, Falchetto. Positivo, salutoni Mario, ben entrato. Sì, ben entrato, e il Buzzinetti ha preso le sei panchina. Ai ai ai ai. Io sono entrato prima, però nessuno mi sentiva. E niente, solo Roberto a me mi sente bene, e Capri 2 che gli faccio fare 4 giri di Twitter. Gaffa, gaffa, e anche io ti sento bene, Mario, dai, dai. E io pensavo che lì, a quella zona tua, io arrivassi un pochettino male, perché vedo i controlli che date agli altri e rispetto al mio c'è un abisso. Brutto modello, non mi vedo, ho capito io. Ok, ciao. Dimmi. Dimmi, ma che non so cosa gli ho fatto. Quanta giunta per aver entrato? Aspetta, ti faccio fare quello che ho fatto a Mario. Poi gli si è parlato la piazza del Santo Maro. Mario, spegnete i macchini, dai, che c'è troppa bailame qua adesso. Cazzo a muscolo, eh beh, Dino. Mi tocco sopra. Ciao, Mari. Beh, Dino, come te la passi? Ne avevo anche voglia di sentirti. Già lo sai che io quando sono... quando sono davanti ad una donna che non mi guarda, accendo subito e spengo. Ah, così fai. Uiuia. Beh, come vai? Pupo e pupo. Me, non lo senti, mi sta chiamando a poc'anzi. Tutto a posto, grazie a Dio. Ciao Robè, scusa se siamo entrati un po' bruscamente. Ciao Antonello, ciao, chi c'è dell'altro Mario? Fammi... che sono entrato giusto così, ma non ho seguito chi c'era. Ci sono io, Falchetto, c'è da Capri 2 che ha chiuso, poi c'è da Vela 2 che è lo stesso, si sta preparando per scendere ad Alghero, e niente, siamo i cinque gatti. Giuseppe che si è assentato un attimo, che doveva fare una piccola commissione, e niente, siamo quattro gatti, i soliti quattro gatti, frequenza. Tino. C'è anche il cugino di Fabio, non mi ricordo il nome adesso. Come diavolo si chiama? Avanti, cugino di Fabietto. Carburo. Carburo, si chiama Carburo. Guarda, ora già siete in buona compagnia, proseguite, va. Riprendi, Robè, ciao, sono un attimo al computer, sto facendo una cosa. Ciao, ti mi hai sentito, Cazzo, un bel nome, Carburo, prima di andare lì, complimenti per il nominativo, avanti di nuovo, Carburo. Adesso ne approfitto a salutare a tutti quanti, perché visto che ero andato a suo tempo anche se stava a modulare, quindi anche quelli che non conosco saluto tutti, Andare, va benissimo, quando vuoi. Fai un giro di canale normale e siamo qua su 21. Avanti, Falchetto, e poi fa girare. Aia, salutoni dai, salutoni anche all'amico entrato. Rilancia ormai che sei rientrato Giuseppe, se no riprendi tu Pomponi e fai girare. Giuseppe ha paura di entrare velocemente. Quando c'è bene con l'interfe. Il microfono vuole male. Esce un bel bene, che senza quattro canale la verità. Ma più alto, di più nemmeno. Hai stato modificato Antonello? Sì, ma non da me quello. Quello non l'ho modificato io. Quello ha modificato uno che è morto, la verità. C'è un re dentro, c'è un amplificatore microfonico dentro, quando l'ho visto io, e quindi esce con microfono normale. Invece è un altro inter che senza quattro canale che ho io, quello che ha scelto lui. Lì c'è il microfono, la S22 con l'effetto ecco, quello è il microfono, proprio quello che c'è lui è il microfono normale, chiaro, senza amplificatore, senza niente. No, no, già ho sentito, una bella radio, ottima radio. E tu cos'è? Saturn-Eco questo sta utilizzando? Via, Saturn-Eco. E anche questo non scherzo, una bella modulata normale, senza particolamenti di eco e di cose strane. A me così piacciono, belle modulazioni pulite. Non mi piace a me tutti i discorsi che ci mettono adesso. Siamo a Puglia, comunque. Padre di tutto. Con Puglia ogni tanto, già lo sai, lui con gli eco e con il bipice diventa scemo. Gli piacciono un casino. E tu non l'hai conosciuto quando faceva la messa con l'eco, per carità. Oh, Iulia. Pompugno c'ha un po' questa malattia sugli eco e sui bipi, perché poi il bipi non è che gli piace quello semplice di una nota e basta, minimo ce ne devono esserci così, in modo che ti faccia la serenata. Però mi pare che sia l'unico che è riuscito a mettere l'eco erogenebipi su 440, lui sì, Antonio? No, ho messo erogenebipi su 680 io, non su 440. Sì, 80. Adesso quando lo dico ci metto anche l'effetto eco LED. Alcuni attimi vado a controllare le piattoline a vedere se si stanno bisticciando. D'accordo, d'accordo. Perché cosa ce l'ha? In riparazione 680, Pupù. Sì, è peggio del tuo, la verità. C'è dei segni incollati il mio. E quindi c'è una riparazione perché quando lo abitavo giù. Ricordo della frequenza e cose del genere, i condensatori sono andati tutti a fanculo e allora gli altri anni cambiamo il tutto, lo so, adesso devo comprarmi i condensatori, fargli ripiazzare, nuovi, eccetera eccetera, capito? E quindi a parte che con questa terra che ho adesso, in questo momento non sono in sezione di piazzarle qua, che se no ritorno come prima. Quindi provvisoriamente lo lascio dove riparo quello che c'è a riparare, quello che è, glielo faccio usare a lui. Poi metto un po' tutto, mi piace la manto, ma soprattutto non mi piace proprio qua su il Piemont. Inoltre portandolo qua sopra e bruciando, il discorso è quello. D'accordo, d'accordo. No, io qui perlomeno per adesso mi sta funzionando un po' il tutto, là. Adesso sto usando il 14, davvero. E niente, poc'anzi c'avevo il Galax, poi provo a accendere l'FT. Comunque, ho visto che l'elettatore sta funzionando bene, sono contento di quello, ma sono veramente contento. Perché mi facevo bene, come se posso dire una cosa, tu regala una cosa a una persona, perché si brucia e poi ti la frizza, capito? Per dire, in 12, dopo 12 anni, se ce l'hai con la gente, siamo abbastanza, e quindi sono contento di averlo riparato, in verità. Voglio che quella elettronica funzioni, che stia usando con quella panicchia, con quella, cioè come se usi il 140 potessi usare anche il 80 per dire, con quella elettronica, su quella solamente di quella, neanche degli altri, perché come in teoria è come se fossero i miei tool, quello che è, perché il teatro non sei uscito di radio, dottore. No, questo microfono mi sta facendo diventare scema a me. Io sono come il coso, come il ciabattino, sono bagliato a metà posto, sono passuolo. Sì, va bene, vediamo un po' chi è rientrato qua, se c'è qualche donato su 21, avanti chi vuole entrare su 21. Isma, Giuseppe ci sei ancora? Vai qualche. È positivo al 100, andrà bene meno, è così, è un iaia, cosa arrivo qua. Purtroppo gli apparati si rovinano come ci roviniamo noi, si guardano anche loro, non ci possiamo fare niente. Ok, dai, riprendi, vabbè. Sì, vabbè, purtroppo si sfasciano tutte le cose. Cose del terra non esistono, la briga, era in mano, come? Infatti. Allora, vabbè, vai Maria. Ma no, e a lui gli si è rovinato perché dove abitavo ultimamente c'era molta umidità e io ho la fortuna che qui è bello, asciutto e tranquillo, anche se sono stati un po' di tempo fermi, però diciamo grosso modo funziona tutto. Sì, sì, meglio così. C'è gente che usava in cucina, c'era qualcuno che modulava, che c'era il baracchino in cucina, ha detto ma come fa il baracchino? A parte anche di un certo livello. Scusate un attimo. Parti. Sono Carbura, ascolta, io sto uscendo, nel caso ci sentiamo tutti, saluto tutti quanti, tutti quelli che ci sono in modulazione, ci sentiamo più tardi nel caso, ciao ciao. Carbura, come fai di nome, così ci ricordiamo? Giovanni. Cappa, mi hai sentito per la prima, avanti gli altri, inizia a far chiesa e poi fa girare. Cappa, ciao Carburo, Giovanni, ci sentiamo tutte alle migliori, riprendi Mario per i saluti. Ciao Carbù, tutta la prossima. Avanti un po'. Un po' mi è sparito, ogni tanto sul microfono le base battiste. 5, 3, 4, 5, 6. Cambio basso. Ci sta facendo diventare solito questo microfono a me. Giovanni, metto mano. Ma che è quello che ti arriva più forte di segnale? Vabbè, probabilmente io, oltre a me, dai. Che stai dicendo, Roberto? Eia. Mario. Più forte della torella? Eia. Addirittura? Eia. Quando ti arriva, Mario? Mario arriva a 9.25. Io quando ti arrivo? Tu sei quasi 9.30. E io, poi, Torello quanto? Torello 9.10. 9.10 soltanto, perché di fronte a te? Lo so, ma mi arriva 9.10, non di più. Capri quanto ti arriva? Oh, Capri mi arriva 5, di Santiago. E poi gli altri, per dire, Natalino, Gianni, quanto ti arrivano quelli? Oltre ai 9 lo dimano di 9? No, Natalino 9, Gianni 9, 9, 5 e basta. Io, va bene. Ok, ma io quanti ne danno per curiosità tu? Io niente, con i vati normali, 30 watt mi sembra che li sto dando. Adesso, siccome sto parlando non lo vedo, non dovrei parlare. 30. 30 di portante, va bene. No, per fare un confronto. Io di portante ne ho 10. Mi sta venendo la vita, mi sta scappando la vita adesso, perché se Mario dovesse attaccare quello e farsi portare quello che c'era lì la ottava, con solo un Saturneco, a parte mi fa fare due giri di Smith. Sì, sì, sicuramente, Mario, stranamente, come considerato la posizione, in assoluto il segnale più forte, cioè, si fa sentire forte da tutte le parti. Io anche quando ero giù a Quartamona, a casa mia, adesso qua a casa mia, è uno dei segnali più forti ricevuti. Cioè da quella parte lì, dalla parte di giù è il più forte di tutte, insieme a Luca. Vabbè, ma guarda che io rispetto a Luca sono in un buco, perché io mi affaccio alla finestra e la vedo da qui, più o meno la casa di Luca, e vengo che è in asso, così che, e poi, a parte l'altezza, che è molto più vicino a te. Tutto scatto, se mi ricordo male, Mario, ho detto a quattro, Avete parlato in due, sentivo a te, a Torre e sotto a Mario, ripeti quello che hai detto a Torre. Stavo dicendo che Mario già si ricorda quando abbiamo pensato la B27 della ringhiera, comunque la gente comincia dalla sua, che adesso ha prestato, mi dicono adesso una cosa, ha preso a quattro scatto, quando l'ho modificato, c'è una dell'antenna. C'è un scatto, è un giocattolino quello. No, ma quando l'ho modificato è bello che le stesse erano piccoline, poi le ho messo quelle grandi, la differenza già c'era, e già si racconta anche Mario. E non lo so, ma io l'ho sentito un paio di volte, solo in prova, ma già si fa sentire, Sì, è una volta che stavo parlando con Montestra, che c'era Luca che si stava incazzando, perché Luca non riusciva a parlarci. E poi così, ma giusto per provare, niente di puntiglia né nulla, ho pigliato l'accesso perché mi ricordo che me l'aveva detto Claudio, mi ha detto prova a attaccare il digetto, e io ho provato, ma così, scherzando, senza cattiveria, senza niente. Beh, Claudio si è spaventato perché gli ho fatto fare veramente 4 giri di smitter e ha detto chi più ne ha più ne metta. Niente, però io con Montestra parlavo liscio e senza niente. È stato un caso così che me l'ha detto Claudio stesso, dice prova così e io ho provato, ma lo sei pure assoluendo. Ma Mario, ti trovato quel digetto a te, Mario? Dove l'hai beccato? Io quel digetto l'avevo comprato insieme all'Argus e alla Fayette. Ah, usato, non l'hai preso nuovo? Perché transistorizzate di quelle potenze non le trovi molti, ce ne sono ben pochi. Infatti tutti lo volevano. Il primo tempo che me l'hanno visto, quelli che sono venuti a casa, lo volevano tutti quanti, io ho detto lascia stare a digiuni. Adesso l'avevo prestato a coso, a maestrare, perché volevo fare delle prove per fare chiacchiere su all'estero, diciamo così, là, per fare 10. Ma in città non è tanto conveniente utilizzarli, quelli lì se c'è una posizione fuori città, perché sennò c'è il rischio che crei problemi alla gente. Guarda, io l'altro giorno ero con cosa, come si chiama, con Domenico Tazzanetto, lui mi ha ascoltato, ha detto sì, una berchita, pulito, io stavo uscendo, io esco con 10 watt, non esco più di 10, non mi ha fatto nulla di uscire più forte, figurati se dovessi attaccare quel coso che c'è tu, quanto per cavolo posso arrivare con la posizione che ho io. Con la posizione che c'hai tu, che sei molto più in alto di me, io penso che dovresti arrivare sino a Cagliari, perché io da qui, malgrado che sono in un buco, sentivo i camionisti che quando arrivavano a Basanta mi davano tante di quelle bestemmie, perché non riuscivano a parlare tra di loro quasi quasi. Sì, ma anche tu c'hai una buona posizione, mi considerato che non sei in alto. Io l'ho sempre detto, cioè, rispetto a molti altri che della zona del monte, diciamo, che sono più in alto di te, tu arrivi molto più forte. Non ho mai capito per quale motivo, ma cioè, a me mi insegna lo smith che arrivi più forte di tu, per cui poi molte volte tu riesci a parlare con persone che in zona del monte non riuscivano a parlare. Abbiamo avuto tantissimi episodi di volte che ci sono, che è capitato che tu hai parlato e ti hanno anche risposto, diciamo, tutti e due vi siete parlati, per cui la parte tua poi era grave come posizione, considerando che mi hai detto che c'è anche l'antenna che non è al 100%. Ci mancano 3 radiali e sono proprio quelli da quella parte là che mi mancano i radiali, quelli verso Alghero ce li ho, però verso la zona di giù quei 3 mi mancano. Va bene, la grande, non ho visto problemi. Vediamo a Falchetto se c'è ancora. Avanti Falchetto. Positivo, ne approfitto per fare un po' di carica, ci riprendo dopo, saluto tutta la ruota e tutto a dopo se coincide. Ciao. Da bene, venga. Una posizione eccezionale ce l'aveva a coso, quando era qua la torretta di controllo, finalmente Mario. Lì Claudio, a parte che era già in alto di sé, lui aveva quella specie di grattacielo, a voglia che faceva veramente la torre di controllo, però ti posso dire che malgrado che era molto più in basso rispetto a Claudio, io a Pompugno, quando abitavo in via Residu, è una cosa che non c'aveva la Mantova, c'aveva una Rigibu, mi sembra, o una di quelle antenne così, adesso non mi ricordo bene il nome, e beh, lui parlava con Villaciso e gli rispondevano, faceva gli ex con la Spagna, ma sembrava che ce li aveva sotto casa, e poi l'ho visto io con gli occhi miei. Sì, ci credo benissimo, e anche la gente, ma in quella zona lì arrivavano molto bene, non so per quale motivo forse si calava, ma adesso lo vedi, adesso Antonello, io gli ho detto se lui si piatta la matta va lì, gli fa un bel danno lì. Danno no, perché sì, è in alto anche lì, però non ci aveva la ricezione, perché io fino a quando lui ci aveva l'antenna lì, che abitava ancora lì, mi ricordo che non aveva la ricezione che aveva in via Residu, perché in via Residu c'aveva una ricezione, ma sentiva anche i brasiliani. Vabbè, ma c'è da dire, non so quando sono arrivata in via Residu l'antenna, qua su, come si chiama, Serra Secca, ed è sempre stata bassa l'antenna, non rende, la matta ma la devi sollevare, lui ce l'aveva a 2 metri da lungo dall'altezza, li devi mettere almeno 6 metri d'altezza per farla rendere con l'antenna. Anche quello è vero, però diciamo, essendo già in alto come posizione, doveva rendere qualcosa in più, perché se tu scendevi giù in via Residu dove era lui aveva una piattaforma messa su, perché c'avevano il tetto fatto a terrazzo, e lui aveva una specie di piattaforma tipo quella degli ombrelloni mia ancorata, e sopra c'era l'antenna, eppure non era né alta né nulla, ma lui uscì a 2 voci. Sì, vabbè, non parliamo di uscire, io non considero farsi sentire, perché posso attaccare 1000 watt e mi posso sentire di tutto il mondo, io parlo ricezione, a me la qualità della trasmissione io la valuto in ricezione, non in trasmissione. Gappa, ma ti sto dicendo che lui sentiva i brasiliani in via Residu, riusciva a sentire Cagliari, mica Cagliari, è molto difficile riuscire a sentirla a me, eppure lui ci parlava, cioè non è una cosa da niente, eppure l'antenna non era né alta né nulla, si può dire che era appoggiata in una gabbiuria. Sì, sicuramente ci credo, non ci sono problemi. Per cui non dico, non è importante farsi sentire, devi anche sentire tu, inoltre che io mi attacco 10.000 watt e mi sentono a Parigi, eppure non entra nessuno, non serve a niente, deve essere tutto equilibrato, sia la ricezione con la trasmissione. Io non per vantarmi, grazie a Dio, ho un'ultima ricezione da questa parte, per certe zone, naturalmente ci sono zone impervie per me, zone tipo Castelsardo, quelle zone lì, con le bande cittadine sulla 27 non vado granché bene, però se mi parliamo di Alghero e tutta la zona dietro di me, Budusò, Quattada, Perfuga, se lì vado alla grande, Monnannaro, Proaghi arrivo a bomba. Proaghi ci arrivo anche io mi ricordo quando c'era, mi sembra che era Teresa, quella che parlava da Proaghi, e poi ci parlava anche molto Padre Pio, non so se tu te lo ricordi, forse non l'hai conosciuto, niente, io parlavo con tutti quanti, ma io lì arrivo, quella zona lì, io arrivo quasi a bomba, perlomeno, me ne ha dato la conferma anche l'altro giorno Vulcano, che l'ho accompagnato sino al Biglio di Ossidi, e diciamo così, a Miserios, là. Mi sentiva bene, però io c'erano dei punti che a lui lo perdevo, però tenendo presente che lui era sulla bara pesante andando verso Urbia. Io anche l'altro giorno una cosa a Tartaretto, sino a mezz'ora ce l'ho ascoltato io, lui stava uscendo con la potenza dell'apparato senza aiutarsi di niente, e di lì andava avanti, mi ha ascoltato sino a Berchina, ed era l'unico che l'ascoltava, perché tutti l'hanno perso, dopo quello che tutti l'hanno perso non lo sentiva più nessuno, c'era Gianni, c'era Luca, c'era, vabbè, questi falsetti e cose, non è che c'hanno 12 antenne, per cui non possiamo, però Gianni c'ha la manta, ma Luca c'ha la manta, ma loro l'hanno perso subito, dopo quello l'hanno perso, io l'ho sentito bene sino a coso, sino a Biglio di Ardala, dopo Ardala. Il Biglio di Ardala è molto prima di Meseriosmi, non è poco, no? E poi quella zona lì è anche un poco zona negativa, perché praticamente in quel punto lì passa sotto gli alberi. Per quello ti sto dicendo, di lì è un po' in pervia, infatti mi ha detto, io ti, per qua adesso mi perderete, io ho sentito sino a Meseriosmi, dove si chiama? che sia un po' più avanti, dai, l'ho sentito bene, non benissimo, diciamo, alla fine poi se ne stava andando, però tutto il pezzettino, quello di Ozieri e quella roba lì, l'ho ascoltato bene. Poi più si allontanava e peggio andava, però gli altri l'avevano già perso la dopo provavia. Mi dico che gli arrivano per 20 in quella salita di Sarcasi, a me mi arriva 9 più 20. Ragazza, buono. No, io lo stesso l'ho accompagnato sino a mezzeria, poi non lo sentivo più e giustamente me ne sono andato, non è che sono rimasto lì ad aspettare. Però se uno c'ha una radio buona, io per esempio una volta sono sceso a Cagliari e quando stavo rientrando all'altezza di Bonorra sentivo benissimo a Claudio e un po' più basso sentivo a Luca, infatti ci ho anche parlato, però a momenti li sentivo forte, a momenti li sentivo proprio terra terra. Si sa, io lo so, la Morva è abbastanza in alto, di lì che arrivava di lì. Tempo fa lo stesso c'era Marco Scorpion, lo stesso mi ha ascoltato molto forte, c'erano dei punti che arrivavano molto forte, ma io per dire il pezzettino di coso, di campo me la di lì arrivano per 20, tutti quanti mi hanno i controlli oltre 9, quel pezzettino dove c'era, come si chiama, il deposito di della Conad, non Conad, come si chiama, della Cobet. Ma lì sei vicino, va. Lì sì, a due passi, sì, anche molto prima di Provaghe. Così che tu, essendo in alto, quella zona lì ce l'hai tutta quanta sotto e la dovresti ascoltare benissimo. Ma c'è da dire che io c'è tutta la collinetta davanti, hai visto cosa c'è di collina davanti? Se mi fai il pezzo di Provaghe, lì già in alto, più in alto di me mi copre. Però tutto quel pezzettino di Campomela, lì è un fosso, per me è dentro un fosso. Eppure chissà per quale motivo riesce a incanalarsi l'onda e riescono a ricevermi. E è così, è bello, quando la gente ti sente e tu riesci a sentire allora ti diverti, altrimenti quando sai quella recita così incollata e ti arrivi in terra a terra, non è che sia tanto bello, Vediamo un po' se è rientrato qualcuno, se no facciamo rientrare il Falchetto. Entrare nel canale 21, chi vuole entrare in compagnia di Mario, Roberto e Falchetto, avanti chi vuole entrare. Buonasera Roberto, buonasera Mario, ciao Falchetto. Sei Massimiliano? Allora. Sei movimento Massimiliano? E io. Sei bello forte qua. Uno più uno solo, quasi per arrivare in quella galleria artificiale, là. Mettendo meno da 4 per uscire. Ehi, cazzo, sei 9.30 qua, sta arrivando con una bomba. E quando mi piace il segno, Roberto, capito? Come ti sta arrivando? 9.30. Ah, avanti Falchetto. Falchetto, scusa, è andato a mandigare. Mario, vai per Massimiliano. Ehi, Massimiliano, a me non mi sente perché io sono piccolino. Vero Massimiliano? La marca che te ne scenda. E non è meglio che ne scenda a te che a me. A me me ne è già scesa. Dai, facciamo un po' di compagnia sino al percorso. Dove sei andato a Ranghiera, proprio città o zona di Mitrofe? Strano le domande, là, diciamo. Io alle Coccinelle. Non sono mai andato di lì. Io qualche volta ad Alghero sono andato a quello, non mi viene il nome, ce ne sono due prima di Alghero, dalla strada di Coso, per andare a Coso, a Fertilia, ce n'è uno lì e poi la strada dell'aeroporto militare, Correndo mi sembra che si chiama. Sono già Luca, per voi già non c'è problema arrivare di là. Mi fa compagnia a Falchetto addirittura la mattina, ho preso il ruccio. Io ce l'ho di fronte, non ho nessuno stacco, anche come Zavato mi ascolti bene lì. No, c'è la Borgo, perlomeno, anche da Torino arriva bello riparato. Ma ti stai aiutando tu, Massimiliano? No, questo è birichino e basta. Cacchio, 9.30 pieno. Beh, non mi ricordo, Robe, che questi qua fanno 8 volte di portata bianca quando sono morati, sono intorno ai 18, 16, capito, 16, 18 modulati. Ma c'è da dire che gente di Sassari non arriva, l'avrebbe voluto gente di Sassari, questo segnale che c'è in questo momento tu. Guarda, io sono passato, diciamo, con la galleria artificiale, superato più 35 questo passaggio. Addirittura. Figurati. Mario, vai tu da. No, c'è una bellissima radio e non c'è niente da dirle. Io il segnale non lo sto manco guardando a chi, a me che mi interessa la radio. Intanto è inutile che mi dici per il segnalone e la due radio non venne. Invece lui c'ha una bella radio squillante. Sì, sì, no, ma l'ho detto anch'io. Fate votare anche se non mi abbia diretto, però quel tipo di apparato è fatto così, per cui accettiamo quel discorso. Non lo so, a te ti piace così. Mi piace tranquilla, comunque, andare a Romante città, sei in movimento, non sono in città, a me non mi piacciono in città le cose, le radio compatte, ma va bene come sei tu in movimento e ti fai sentire anche da lontano, però per il resto, contrario. No, vabbè, tu già mi hai sentito anche quando ieri, mi sembra, io a casa non mi uso di questo, ma io uso l'altro. MP5 non ritorna alla 34S, una bella bomboletta, va benissimo la radio. Sì, sì, sì, infatti l'ho detto, lo ribadisco, preferisco la radio tranquilla, non da combattimento. Vai Maria. Beh, anche a me mi piacciono le radio tranquille, senza l'eco, perché anche io adesso volendo posso riattaccare il Galaxy. Ce l'ho nel microfono, sia l'eco che il bipi, e ce l'ho anche nell'apparato, però non ne pongo mai, anche non me ne ha fatti nulla. E vai, vai, e non ti sei perso niente, dai. No, non è che non mi sono perso niente, non è una cosa che mi attira, preferisco uscire così liscio, tranquillo, che con tutti questi bilipi, così, tranquillo e buh. Vediamo se c'è ancora Antonello, che ce ne siamo dimenticati. Antonello, vai avanti se ci sei. Nuda, riprendi Massimiliano. Adesso siamo qua proprio nella 4 corsie, dai, ci sono i bancari. 9.5, 9.10. Perché è sempre buono, va? La Puglia. Ma sì, il bip. Che? Mi è sembrato Radio Vera, dal bip. Magari lui non mi ascolta, poi non lo so. E avanti col bip. Non lo so, avanti Maria. E chi c'è uno che fa il bip in voce e il radio magari non ha, per carità, è così, è. No, qui sta andando sempre a forte, Massimiliano. Beh, allora, appena superato pieno di bancari qua. No, sempre radio super 5, segnale a carenate da 9, 9, 10, 9, 15, però la radio è sempre forte. Beh, ma guarda, io ti dico una cosa, per esempio, Roberto, a casa, quando Gigi Vulcano rientra da Cagliari, guarda, ci sono certi punti che non ha segnale, ma arriva con una radio allucinante, è segnale proprio zero. Non lo so, con gli apparati svingono parecchio di radio. Chi è la famiglia che ti arriva più forte a casa tua, a parte quelli che c'è vicino, dico Salvatore, Luigi, eccetera, eccetera, però la Sassari, chi è più forte? Io ne ho più uno. Più forte di Mario arriva. Eia. Io poi, vabbè, non so se Gianni è attaccato quando... Comunque, allora Gianni mi arriva a 9.25. Spaccato. Poi, vabbè, quando attacca più forte di tutti, no? Vabbè Gianni, andiamo a vedere, molte volte, infatti l'altro giorno stavamo parlando di quello, c'ha segnali molto altalenanti, infatti non possiamo dare un controllo perché non bisogna capire cosa ci ha attaccato, per cui non possiamo dire niente. Comunque diciamo che la maggior parte, il più basso che mi arriva è Alessio e Falchetto, il più piccolo proprio che mi arriva come segnale, gli altri mi arrivano tutti dai 9, 9, 10, ecco, Pierpaolo, vabbè, però Pierpaolo diciamo una cosa un po' a parte, là. Lui per arrivarmi un po' almeno Santiago 7 deve pulire anche 200 watt. Ho detto, figurati che io sono più basso. E' più pio. quando attacco la moto, vado per là e ti faccio cambiare il coso. Vedrai che ti devo fare una scala che l'altro, vedrai. Capofu, qua a me, quattro corsie, dove c'è quel distributore, mi sta arrivando Santiago Lope, fate un conto. E io quanto ti sto arrivando adesso? Ora, 1.25, sempre un bel segnale, prova tu Mario. Ehi, guarda, 1.23, prova. Questo passaggio, guarda, è più forte, quasi 9.30. Aspetta, guarda un po' adesso. C'era 9.30. Marco? 9.30. Calma, sola, prendiamo. Io sto uscendo con 10 watt, comunque, se li chiedono. E mio, com'è? Sempre buono il segnale? 9.10, 9.15. Certo, addirittura. Magari è punto buono questo, va. A te quanto ti sono arrivato a te quel passaggio? Sì, tu sei più uguale qua, fuoco scala, sì. Tu qua arrivi 9.40 piano piano. Se per trovato faccio 9.60. Lo ci può fare una volta io, forte. Ero il numero 2, avanzo con l'ultimo. La qua già pompavo, cioè, da qua mattano Piero, ogni guerra, ogni asino. Va bene, il numero 2, lei era il numero 1. Claudio, Claudio chiamava a me, diceva che doveva fare il muro di Berlino, non doveva fare il muro di quelli della Terrocci con quelli di Sassari, e sto pronto solo. C'eravamo dalla Sassari divisa in due in periodo, quasi 2 mesi. Alla fine, gli altri erano morti e noi eravamo vivi. Mica capissamo cosa stavate uscendo, figurati. Io così c'entro Claudio con quello che c'era sotto i sedere. A parte poi qui c'era dei picchi con 100 watt, c'era da due sole, poi c'era 34 CB, quindi eravamo divisi in due, la zona di due sole con la zona, c'erano due sole campanate con la zona di lato voce e la zona di campagna, quindi era così. Poi una volta abbiamo fatto le cose da quella con l'Alghero, con me è morta, perché sono voluto con chiunque, sia io sia Claudio. Ma c'era un periodo anche Vittorio Giove si faceva sentire. Ma Vittorio è morto molto poco in realtà. Vittorio per la 27 era quasi una cosa, è entrato per dire per 6 mesi poi è sparito. Non stava stabile, capito? Più che altro, quindi Vittorio riesce bene. Per dove abita riesce bene in quella zona. Io lo so, c'è un segnalone, non so cosa utilizzi, lui dice sempre mezzo watt, ma a me non ne arriva la bomba qua. Vediamo Massimiliano se ci ascolta ancora, avanti Massimiliano. Io se mi ascolto ancora, non c'è problema, dai. Questo antennino ancora ci fa ascoltare, alleluia. Ma vabbè, io guarda, adesso non vorrei dire niente, però voglio vedere tutti quelli che ci sono a Sassari, che escono con questi lignaroni, con i chievoli 27, che è il minimo che mandano sono 50 watt, voglio vedere con 4 watt dove arrivano, perché criticano anche la gente, capito Robert? Questo mi arriva così, questo mi arriva così. Però, certo non si rendono conto che la ciampa lì, e gli sui lignaroni, 800 watt, 600, dove 4 watt e queste tutte le terrasse avrete attivi. No, guarda, stiamo parlando proprio di quello con Antonello, con Mario. È inutile che tu esci con 1000 watt e poi non senti a nessuno. Devi avere una radiostazione equilibrata. Io non per dire niente, ma io non esco più di 10 watt, non me ne affutti nulla. Ma anche di meno, mi stanno facendo proprio con Salvatore con 0,2 watt, con 200 milliwatt in FM, ed era 9,20 lui da ottava, Salvatore Maestrale. Proprio per fare i riferimenti e vedere le prove. È inutile che tu parli col mondo e non senti a nessuno. Infatti l'altro giorno era quello il discorso, a me mi ha sentivano sino a Berchita, io l'ho sentito sino al bivio dopo di Ada, a Mesuria o come si chiama, a Coso, a Tartaretto, però nessuno l'ha sentito, dopo Blanchi nessuno li sentiva, cosa ne vai tu se c'è potenza e poi non senti a nessuno, io l'ho sentito sino a quel bivio di là dopo di Ada e nessuno l'ha sentito, dipende dalla posizione dell'antenna, è inutile che tu ci metti 1000 watt sul baracchino e poi non hai ricezione. Ma è quello che sto dicendo, ma poi se non lo rende pure, perché c'è questo roba. Non puoi fare noi, però c'è l'altro giorno mandandosi 500-600 watt, ma fa già altri 400 metri, cioè cosa va a fare ridere? salutiamo tutti gli amici che sono in modulazione sul 21, e ho sentito anche l'amico Massimiliano e Caterpillar che saluto con una stretta di mano. E avanti Massimiliano. Positivo. Buonasera, ascoltato. Ti ricevo perfettamente bene, Radio Super 5. Rotatoria di Sardegna, la mia, non so come la ascolti tu. E dove sei, Massimilia? Rotatoria di Sardegna, lo sto facendo adesso. K, io ti prendo con un Santiago di 4 e una radio di 4, dai, stai arrivando bene, Massimilia. Ma cazzo. C'è tutto il segnale qua. Quasi 9, Santiago 8, tendente a 9. Radio sempre 5. No, no. Dove sei? Che tu sei arrivato? Fertile, a quale rotatoria sta dicendo? Prima, quello per andare a trovare, diciamo, la rimetterti a zero. Ah, sì, sì, ho capito. Quella grande, grande che c'è. Vai Mario, vediamo un po' Mario come ti ascolta lui. Ascolto benissimo, 9-10 sempre come segnale, perché adesso lo stavo guardando quando stavo parlando con te, e la radio è sempre Super 5 a bomba. E allora sono tutto bene, sei a me. Da me sei perfetto, sentiamo, vabbè, sei sentiamo tre, però ti ascolto lo stesso. La vedo la sricchia. 3-5. Io invece te ti ascolto, sono pieno 7, la radio è sempre perfetta. Ma questa non avevamo la gamba, non avevamo banca, su Mario è il più forte che c'è. Qua ci saltiamo 3, radio Super 5. Ciao Luccaria. Dai, riprendi tu Mario, facciamo. Kappa, riprendi tu Robè, senti tra, per il momento ti sta arrivando 3 più furti. Ho detto Mario che sei uno dei segnalori, considerando dove sei messo, tu arrivi che è una meraviglia, l'ho sempre detto. Tu e Luca ci avete ultime potenze, non potenze, ultime trasmissioni, punto di trasmissione molto, molto buono. Buonasera Luca, riprendi tu Luca e vediamo un po'. Ma capo, noi abbiamo ascoltato tutti bene, anche a Massimiliano, se è basso di segnale ma la radio è forte. Perciò non c'è problema. Avanti, io so che ci sia Rena, che poi sta mangiando una pizza qua. Riprendete voi. Vediamo Massimiliano se mi ascolti meglio così. Hola. Hola. Bene, ti ascoltavo sempre bene. Non sei sceso quasi per niente. Quasi 9 più 20. Una radio sempre bella forte. Non ci sono problemi. Vediamo un po', Giuseppe, tu mi ascolti sempre bene. È positivo, Massimiliano. Bene, chiara come radio, anche se come Santiago, ripeto, non stai uscendo forte, però come radio va bene. Profitto un secondo, visto che ho sentito che è entrato anche Luca qui sul 21, ciao Luca. Buona carica, dai, fai con calma e non preoccuparti, e riprendi tu Robè. Infatti Luca, però Luca è bene, è trovato poi quell'ufficio che stavi cercando. Quel medico che stavi cercando, l'hai trovato? Sì, mi chiamo di Pomentore Robè. E sto fatto, visto e tutto. Dove ti avevo detto, io ho detto sicuramente la risa in quel palazzo nuovo che c'è anche un coso, una parrucchiera mi sembra, no? Poi c'è il bar, fate a bar. E infatti di lì, che c'è anche cos'è, una specie di coso di assicurazioni, di non so più cosa. Andiamo bene. Vediamo Massimiliano se ci ascolta ancora. Avanti Massimiliano. Avanti l'amico che devo riprendere. che deve riprendere. Ciao, Massimiliano, buon divertimento, buona carica e buon tutto. E alle prossime. Mario, tu lo sai che sei sempre nel mio cuore. No, no, no, non ci tengo a essere nel tuo cuore. Ma no, a parte gli scherzi, no, non voglio essere nel cuore di nessuno, perché è meglio così. Diciamo che è stato un piccolo lapsus momentaneo, vai. Gappa gappa, va burà. E poco, ma ci sei? Dimmi caro, cosa c'è? Dimmi, dimmi. Un saluto a Massimiliano. Sì, ciao Massimiliano, saluzioni, buon pomeriggio, buon tutto, eccetera, eccetera. Io qui c'è un guardiano del faro, accanto a me, con le orecchie lunghe, e dopo di me devo muovermi dalla sedia, ma se mi bussi che c'è la mano. Che cani è, Antone? Un pincher questo, eh. Vabbè, ma non è così male un pincher, no? Oh no. Posso? Taglia lunga. Tra i denti aguzzi. Appena. E beh, si muoce, muoce tra padrone. Quando si girano i cosi, come lui ce li ha piccoli, però li si gira ogni tanto, a destra e a sinistra, li viene a mettere a mozzicare, ma con te lo aspetti. E quindi a volte mi tocca a piccolo licenziarlo. Buoni una cosa, la museruola, se no ne cavi i denti. Ma non bisogna che vada la museruola, ti preoccupare. Mi fa proprio niente a questo. Oh. Andrà bene, vediamo, facciamo un'altra chiamata generale sul 21. Attenzione, canale 21, chi vuole entrare? Silas, dov'è Pomponio? Attenzione, Mario. Lascia ma più di qua. È una traghetta nervale, Bumbo. No, io c'era un volpino che avevo trovato all'autoparco in mezzo ai cani, in mezzo alle ruote del camion era. E l'ho preso e me lo sono portato a casa per non lasciarlo abbandonato, poverino, ma era bellino. E adesso che è cresciuto, l'altro giorno stavo andando a pigliarlo. E mi stava ringhiando, gli ho giocato una bella bocca, mi è mancato poco che ne avevo subito i denti. Allora, come ti ne vedi le tue luci? Io ho qui, Uia. Io ho qui, Uia. Ah, io ho qui, Bì. No. Ma io ho una bella bocca di ghiri. No, a chi? Cioè, non lo sai, qua dove vedi di ringhi, di vasi, di... Tu già muovevo oppure sono andato a pigliarlo come ti è capitato. Com'è? Hai continuato a vedere la bocca e si è lungo e lungo. Ma avete visto il tipo di Luca, di vero? Che prova a scoprire. Tu che non vado gli occhi sai. No, tu si deve dare, si è fidanzato Luca ormai. C'ha gli amanti, c'ha 5 amanti, non ci pino. 5 amate compiute, quindi c'è sempre il coso dritto, c'ha. A proposito di cani, ne volete dei cagnolini? No, basta pensare uno a me. Il cane mio fratello ha partorito una 4 o 5 da distribuire. Il cane sono? Il capo di mamma. Il cane sono, vabbè. Sono bellini, con bastardini sono, però sono bellini invece, ne ha bianchi e pezzati. Ma che cani sono? La prevalenza della razza, qual è? Ma va, un pezzettino di mano in mano e poi forse anche un pezzo di battere tedesco. Per carità, e poco sono la luce di quelli lì. Lo so, non sono cani rigoso. Questo era un suo fratello, la madre, e poi ne sono stato, insomma, mio fratello c'è fatto il tedesco qui dentro. Sono riuscito a entrare dentro, hanno saltato il cancello, più di 2 metri il cancello, mi è caduto dentro un cane e sarà saltata. Gappa gappa. È brutto quando è così. No, io se trovavo un bel pastore tedesco, ma puro però, io Alessandro, se no l'avevo chiesto a lui, lui ne aveva un bel cane. Chi ha detto? Alessandro. E dai Alessandro? Poi se tu non lo conosci, è un vecchio CD. Alex, quello che si faceva chiamare Alex, quello lì sta dicendo. Non me lo ricordo come si faceva a chiamare il baracchino, so che lui si chiamava Alessandro e niente, Pompugno già lo conosce bene e abitava sempre lì alle parti di diciamo così, di Serra Secca, zona di Milano, quelle zone lì. No, ecco, questo sto dicendo io. Andava via. Vabbè, fate i freschi, sono belli, però mi date attenzione perché sono un po' delicatucci due cani. Sì, ma hanno un'intelligenza fenomenale, Cazzo gli dice a cuccia, se ne va a cuccia, bello, tranquillo. E invece, questi bastardini, sì, sono affettuosi, però non li racconti nulla, hai compreso. E ci passa il disco educato, tranquillo, non di musica, Invece questi, tutto un tratto figlia di vengono i cussi. Voi avete trovato la in due, cercate di rifare la brava. No, questo disco probabilmente il cane più equilibrato che c'è come intelligenza e equilibrio, nel senso non si gira mai, raramente si gira. Però sono delicati di natura. Mio fratello non sa quanti ne sono molti, non si durano molto come anni. Adesso mi ne ha uno che un po' gli sta durando, ci avrà 1-8 anni, però sono cani, quando li tieni, a me che non li tieni belli curati in appartamento, non li vai mai sci, però se li tieni fuori in strada, nel senso in campagna come mio fratello, basta una puntura di qualche animale, di qualche cosa, non sai quanti ne sono molti. Mentre i bastardi, cacchio, hanno una resistenza allucinante. No, io guarda, ne avevo uno puro, mi Pompugno l'ha conosciuto, Natalino l'ha conosciuto, lì quando era in casa era tranquillissima, però guai che entrava qualcuno, se non lo chiudevi da qualche parte, come si montava, basta che lo vedeva muovere qualche braccio e gli rifatto, pensa che al padre di Natalino, quando si avvicinava alla macchina che c'era il cane dentro, vai a punire la mano dentro che ti mi assassava, e al portatore se quasi quasi non è stato il braccio a un carabiniere. Cazzo lì sei entrato dentro la macchina, perché mi ha detto che siccome io ero di fatto che stavo chiacchierando e mi è mancata la benzina, sono andato al rifornitore e con un bidoncino gli ho pigliato un paio di litri per poi ritornare al rifornitore a rifornire. E mi hanno fermato i carabinieri, dicevo dove stai andando con questa benzina. E gli sta la macchina, mi si è fermata la macchina e il distratto stavo parlando e mi sono dimenticato di fare benzina. Ah, e dove ce l'hai la macchina? Ah, sono andato alla macchina. E la macchina ci aveva Davide piccolino, il pastore tedesco seduto a fianco e poi c'era la mia compagna in macchina. Mi sapete se è entrato la mano dentro la macchina, ma era così avvatto. Ma fosse una che l'ha ciappato giù la giacchetta, se no mi è saltato il braccio. Oggi la prossima volta sarebbe a te. Oh signore, vabbè, io devo interrompere perché vado a mandicare la pappa, dai. Ci sentiamo, non so dopo, probabilmente no, se no ci sentiamo alle prossime. Comunque vi saluto tutti, Mario, Antonello, poi diceva Falchetto se c'è ancora, Giuseppe non so se ci sia ancora, aspetto per i salutini e tutti gli amici eventuali in ascolto. Cuore detti da parte mia, iniziamo da Giuseppe se c'è ancora perché era in parcheggio da un po' di tempo. E cappa dai Robè, buon QRT, buona carica e buon tutto, dai, ci sentiamo alle prossime quando coincide, riprendi tu Mario per i saluti. Ah Robè, buona carica, buon tutto, ce la risentiamo alle prossime, vai FCC. Cappa, buona carica Roberto, dai, e buon tutto, ce la risentiamo alle prossime, avanti. Grazie qualche. Vediamo un pochino se è rientrato Luca per i saluti a Roberto. Riprendi Luca. Luca non c'è, avanti buon po'. Io Luca non si distrae. grazie. Quindi ciao Robe, ci sentiamo, buon colletti, buon tutto, buona cena. Vai, prossime. Andrà bene, vera. Quindi sto scendendo bene, era ora. Se stava poco andavo a Geggio, almeno con i picchi positivi oggi. Dopo ho trovato la massa, da sé, tocco a farmi. Quando ho trovato l'antenna pezzo per pezzo. Con il cilindro adesso va bene, ho visto. Sì, con il telefono. Che mi sono ammutato, poco mututo. Sto bianco il telefono. Mi sono ammutato, comunque. Va bene, la mattina, guarda, mi è andato presto, mi piace la mano, ma non c'è vento. La provo, poi la moto la rimetto proprio da vela. guarda, con quello, con quella lì c'è la bomba proprio. Lo so. Ci vuole ancora poco, devo aspettare un paio di mesi, 2 o 3 mesi quello che è. Sono paziente io. Ora a fine vedrà che è piatto con le cose come si deve, come una volta. Sì, va bene con Polai e pian piano già si sistema tutto. Anche perché con l'antenna che è lì è nuova, nuova, nuova, è un peccato lasciarla lì in quell'angolo. Nuova, nuova, c'ha 15 anni con l'antenna, mi non è vita già 15 anni. Ha 12 anni però è buona, è tenuta bene e adesso è anche smontata e magari la stai tenendo anche un attimino a riparo e anche le sue manutenzioni, mi capisci? Ah, quello sì, diciamo che almeno una volta come quello di adesso è cambiato totalmente, come le Grand Prix una volta, quello le Grand Prix duravano per dire anche 10 anni, andavano a smontarvi e come se fosse un buon giorno. Adesso poi invece dopo un mese e mezzo, una volta che si usano i due pezzi cromati, un pezzo cromato al rovinio, si salda automaticamente e si è fregato. E infatti è quello che io ti volevo dire, riservati bene le cose, gli attacchi di quella turbo, perché è un peccato, mannaggia, io l'ho vista stasera come che stiamo uscendo dal negozio. Lo so, anche Mario ce l'ha così. Adesso appena la scendiamo giù, cerchiamo di sistemarla come si deve, di sistemarla per la pena e così vediamo. La possiamo trovare, farla come nuova. Ah, vai, avanti Mario, sotto a chi tocca. E Pompù, guarda che quando saliamo sul tetto dobbiamo piazzare anche un altro antennino piccolino, magari da un'altra parte, però bisogna che lo piazziamo, perché io adesso questa qui l'ho messa su una magnetica, però stavo pensando di metterla sul tetto. Non preoccuparti tu, se mettiamo un'antenna a bifanda sopra il tetto. A posto di andare a ricorrere il 45, stacchiamo quella e ci mettiamo la bifanda. E così si è tranquillo. No, ma il dipolo lo volevo lasciare lo stesso. Anzi, il dipolo, secondo come va, gli do il cavo a Natalina e me lo faccio fare. Un bel dipolo con un multibanda come quello che c'ha lui. Ehi, ti fai fare una cosa del genere, capito? No, la scena però la fai di 58 per dire. Ne facciamo una, due, tre, a fianco al capo grande, non si nota niente. Capito? Non facciamo altro che staccare la calata e ne aggiungiamo tre. Così non si nota niente, si ratta con capo nero e non si nota che ci sono tre cavi in più, hai capito? Così fai tre calate, più quella che c'hai, sono quattro. Le calate ne ho già due, però anziché mettere il dipolo come c'è ora, farmelo fare da Natalino un bel dipolo. E niente, gli do il filo, intanto c'ho filo da sì, ne ho una matassa intera, ce ne sono 100 metri. E niente, e mi facevo fare un bel dipolo, libero tante bande, più mettere l'antenna bibanda. E vabbè, si può che fare, un'antenna per voi, piazziamo lo stesso palo, se non ci sono problemi. Poi pensiamo di palo, facciamo tre calate. Ne devo aggiungere una, però per il bibanda, io volevo mettere quel filo sottile, non va bene. Sì, il 58 sto dicendo di mettere. A parte il filo sottile del dipolo, comunque. Il cavofile ci mettiamo per la discesa, va benissimo, non c'è problema. No, perché di quello lì lo stesso ne ho una matassa. No, non sono problemi, non preoccupati. Ma già lo sai che non mi preoccupo mai. No, è che ve lo voglio fare bene come si deve. E questa volta, secondo come va, era intenzionato a fare il buco nel fluviale. Salirci tutto, toglierne tutto quanto e farlo scendere direttamente dentro il fluviale. E poi attaccargli una specie di sella, diciamo così, e farli uscire tutti quanti da lì. E poi farlo entrare in casa. No, non ti conviene, Mario. Succede come succede a me, con la scusa ci buttano la roba dentro, sentiamo il fluviale e tagliano tutti i campi con la mola. Ah, fottitini. Lascia come adesso a fianco, non facciamo altro che metterci la calata, la calata a fianco, la fascettiamo, non si vede niente. A tutti i dini, con cavofino non si nota nulla. Appagappa, manda bene, va. Ma no, perché io lo volevo fare una cosa più pulita. Che la cosa più brutta sarebbe stato bello. Se avessi scambiato il piano, dove il piano messi con l'ultimo piano, allora sì. Avete avuto le carte, le camere in casa, tranquillo, non avete avuto problemi. Purtroppo quello non si può bere. Il cosa è quello. Quando si ha una casa, che siano questi apparecchi, bisogna aprire sempre l'ultimo piano. Non il primo, l'ultimo. Così non c'è problemi, non c'è nessuno che ti rompa le palle. E basta. No, ma da quell'altro lì visto che già non mi hanno fatto più né dispetti né niente. Ho visto che è tutto tranquillo, tutto tace. Sì, appunto per quello, perché il problema non eri tu, era con lui fondo il problema. Lui disturbava se abbiamo un teco. Il discorso è quello lì, perché quando c'era l'antenna che era con la pera e basta. Adesso meno male già non è da più. Se l'aveva dimenticato, se l'aveva buttato la montetta l'apparecchio, penso, perché la sera ci ha rimesso per un baracchino, quindi penso che se l'aveva dimenticato. Sì, vabbè. Purtroppo lui ha una brutta malattia. Aveva la malattia che gli piaceva bere, quando era bevuto faceva il prepotente, la bevucava da tutti. Io lo so, già me ne sono accorto, ma questo già adesso non l'ho più visto, né sentito, neanche così più visto, la verità, penso che sia solo come un cane adesso. Ah boh, no, io lo sai, io esco la mattina, vado al lavoro, ritorno la sera, cioè ritorno a mezzogiorno, mangio e me ne torno a scappare. Ah vero, non ci sto a casa. Davvero. E come a San Donato, a certo storico, tale uguale. Nessuno conosce nessuno e tutti sono tranquilli. Intanto tutti fanno amicizia, quando fai amicizia sei sempre inchiappettato lì. Il discorso è quello. Allora Giuseppe, cosa mi racconti di bello? Cosa vuoi che ti racconti, Pompo? Ascolto discorsi positivi, perché ascoltare delle volte porta sempre dei buoni consigli. E niente, vorrei sentire anche Mario, sto usando adesso quello l'Excel, Pompo, vorrei sentire Mario come cosa ne pensa del segnale che gli sta arrivando adesso. Ma sta andando bene già Giuseppe, sei quasi 9, no, senza quasi, 9.30 mi stai arrivando ora. Che cappa Mario, dai, va bene, come dico sempre, sempre meglio sentirsi e niente, farsi la chiacchieratina tranquilla senza nessun problema, anche se devo essere sincero che con l'aiuto dell'amico Pomponzio si riesce a toccare qualche picco più alto, dai, va bene. Cosa ne dici tu, Pompo? Cosa vuoi dire? Parlo dei fatti, è vero quello. Da molto la verità che io non facevo più queste cose qua. Mario, lo sa, io una volta, tu non mi hai conosciuto, io negli anni 2000, 2001, nel 90, quello che è, c'era una massa, c'era piena di baracchini, piena di CB, io dalla mattina alle 8:30, alla sera alle 10:30, ti giuro che non c'avevo come dire, 10 minuti per andare a mangiare, ero pieno di CB, fai questo, fai quell'altro, fai questo, fai quell'altro, beh, lo sai che soldi che mi guadagnavo di lì, guarda, l'unica cosa che mi sono comprato è il Kenwood e i soldi puliti e il Superstar 2009, che credo che era la mia sorella, basta, non ho comprato altro. No, il resto non so quanto ho mangiato al bar, ci vedevamo al bar, ma lei lo sa, e ciò che guadagnavamo per dire 10 euro, cioè 10 euro, c'era lì 10.000 lire, 20.000 lire, quello che era, io ogni bevuto al bar, fino alle 10:30 di notte, ogni bella birra, E va bene, dai, finché si possono raccontare queste cose, va bene, pompo. L'importante è essere sempre sulla cresta dell'onda. Non ti ha detto l'ultima, l'ho fatto conoscere anche lo Campagne. Aspide. Quello è vero. Ho conosciuto lo Campagne, portato Blocchetti, la verità. Sembra che avevo fatto 3-4 mesi o 6 mesi, non mi ricordo adesso Mario. Mi sembra di sabato era. No, di venerdì. Andiamo via al bagno, inizio una bottiglia di champagne. Vabbè, non erano tutti che se lo potevano permettere andare al bar per la sua bottiglia di champagne. Io già adesso ho già 120.000 lire. E beh, in quel periodo lì, caspita, ha ragione Mario, veramente che non erano tutti. Lì ci avete fatto un figurone alla grande proprio. Seduti a tavolino, accendino d'oro, e bevendo i champagne, alla faccia degli attributi amari. È vero già, io mi sono investito parecchio quelle volte, guarda, gli avessi fatto il culo, la verità io e Mario facevo il malo, cioè lui mi la toglie ma non vale, per dare Blocchetti. Ma anche il sabato mi sono divertito a pigliarmi lo champagne. Quando mi hanno detto a mia madre, c'è cosa bevete, champagne, mamma ti senti? Un po', bastava dire, abbiamo vinto all'otto. Magari. Abbiamo vinto all'otto. Comunque ci siamo divertiti, la verità, io mi sono sempre divertito. Con la pietra di te, la verità, mi sono sempre divertito. Poi ho preso una cosa per l'altra, ho dovuto parlare tutto, esco, poi ho avuto problemi perché lì c'è un casino, veniva il CP tutti i collini attaccato, modulavo tutti, che ci sono passato solo io, capito? E quindi ho dovuto fare una scelta, mollare tutto da lì, e comunque ero l'unico CP, la verità, che sentiva la zona di Muro, di Stano, Villa Cido, quella zona era veramente bella, veramente veramente bella, uscivo con una pia 27L, piccola, però la mano non esisteva, piccola ma sincera. E K, ci credo alla grande, poco ci mancherebbe altro, perché anche hai dimostrato che anche con l'antennino che hai adesso sul terrazzo stai uscendo veramente bene, stai uscendo forte. Lo so, vecchio ma sincero questo antennino, la verità. E io, prima di pensarlo qua, ne ho regalato antenne, mi hanno regalato 4-5 dentro di macchina, figurati tu. Mi sono dato solo 2 antenne. Figurati, se ti ho trovato ma come la prima, Mario già mi ha conosciuto con la Mantova e uscivo forte. Almeno davo un bel mattana, sia liscio sia con l'idea 600. Non facciamo modulare niente di, come ti posso dire, di Alghero o vicini 3-420 di Navarri uno all'altro. E K alla grande, Pompo. E Mario, riprenditi un attimino che mi hanno squillato il citofono, vediamo chi è a quest'ora. Ehi, K, Pompo, c'è che luna, siamo riusciti a buttare su di là, a vedere tutto quanto via. Quelli li usai, i più di una gli è giusto. Ma Gappa, no, io adesso vediamo come si mette qui. Per adesso l'ho piazzata sulla magnetica, poi quando vieni troviamo quei due giocattolini che sono in UHF, sono quelli lì. Sì, sono in UHF quei due giocattolini, sì. Poi già esco, ma tu sa, sai, c'è roba che fai come nulla. La pagliappa. Quindi già esco, va bene, non preoccuparti. Già sentiamo le cose, c'è una buona antenna per V e U, piazzata nel fianchetto, ed è perfetta. Non hai cappa di positiva. Ma io ho una di quelle di macchina, però è una bella lì. Mi sembra che sia un metro alta. Tu c'è la boomerang in pratica, lo stilo. Quello stile della boomerang, quello è in macchina, è perfetta. Quello pompami, se mi tocca ragionare di quello, sembra la 50 per una volta, la 50 per una volta era fatta così, tutta caricata, grossa, lunga 1,70 m. No, ma io sto parlando di quella, la cosa, quella di banda che c'ho. Adesso pensiamo a quella, qual è quella? Non cambia niente. Non l'avevi vista tu l'ultima volta che sei venuto, vero? No, non l'ho vista quella. Allora, io ne ho due. Una dovrebbe essere V, sempre piccolina su base magnetica, e dovrebbe essere all'incirca 60 centimetri, 60-70 centimetri. Invece quella di banda è un metro. No, non è, va bene. Aspetta un secondo, vado a controllare se questo abbia fatto esibizietto lucane. Ho visto che è venuto qui. Un minuto, aspetta. No. Avanti. Voglia. Chi è? Voglia. Chi è? Io sono. Chi è? Buonasera. Buonasera anche a lei. Tutti spariti? No, negativo. Che c'è? Io e Pompugno. Giuseppe che è andato a guardare chi gli ha suonato il campanello. Ma vada, ma buonasera a tutti. Ciao Vela. Buonasera, buonasera. E ora? Come ora? Ho detto come ora, no? Ho detto allora. Qua siamo, beh, ti è rientrato dal pranzo, sì. Era poi il pranzo. Ma dovete andare a cenare fuori? Io? Ehi. Cioè, tu sì. Avevo capito che dovevate andare fuori a mangiare, buh. Oh no, no, non ero io, no, allora. Non ero io. Ci ha detto poco fa, saranno state le 7, quando hai chiuso gli hai detto e poi ci sentiamo dalla macchina che dobbiamo andare a mangiare fuori. Io ho detto la macchina dobbiamo andare a mangiare fuori, ma quello mi credo io che era Massimiliano. No, quello lì è molto dopo, prima, quando hai chiuso. No, non avevi detto che dovevi andare a mangiare fuori, lo dovevi andare a caricare, boh, non me lo ricordo. No, ho detto, quando sono arrivato con la macchina, ho detto, e salgo a casa, mangio, dopo mangio e proprio riprendo. Ah, capo, e vabbè, no, ma ci mi danno, già lo so anche dove è, perché l'abbiamo anche accompagnato fino ad arrivare là. No, io avevo pensato, forse ero sovrappensiero, non avevo capito male io là. Niente di particolare. E allora, Vela, tutto a posto, sì? Sì, tutto a posto, me. Non sono neanche... Quinto, realtà, sono rientrato alle 8. Non ci siamo sentiti, ma non sono uscito stasera, no, però sono uscito perché no. Beh, dopo io sono anche da Travaglietti, gli ha lungo gli altri, lui si è durini. della settimana, qui con questo tempo di merda. Ma non hai visto il freddo che c'è stasera? No, è di sicuro. Il viaggio di vita no, non faceva stasera. Troppo dolori e poi col freddo che c'è. Sono messo un po' dalla macchina, cazzo, come se dovessi andare a casa. Sono volendo che mi tira la scopa che me lo tremende. Non mi sento molto bene. Vabbè, il freddo sto facendo, però non mi sento neanche molto bene. Kappa, e anche io sono da giovedì che mi ha pigliato a vomito, diarrea, e venerdì non sono andato manco a lavorare, stamattina sono andato, ma diciamo che ancora non mi sono ripreso bene, là. Però oggi va meglio di ieri, di avanti ieri. Ma avanti ieri cazzo sembrava che stavo morendo. È un casino, è quello che umidità, freddo un po', ma non si capisce più niente. Davanti di gli episodi, tre giorni più freddi dell'anno, e sono i quasi i giorni della merda, così è. Papà, dice che c'è quest'aria gelida proveniente dall'Alaska, a quanto sembra, questo freddo siberiano. E niente, ma per fortuna oggi è sabato, mi domani domenica, mio figlio se ne è uscito e gli ho detto, me quando torni a casa portami sigarette, così domani domenica e neanche esco da casa, figurati. No, ma come male, ecco. Io la domenica mattina hai scappato un caffè e la poi me ne torno, ma sinceramente sono così domani mattina, neanche ci esco, perché sono troppo, ma come c'è questa sera, va? Se sono così non ci esco nemmeno io. La domenica sono abituato, esco, prendo il giornale, prendo il caffè e poi me ne rientro. Da San Giovanni, tutte le domeniche mattina. Ma ci sono così, ma come la mangiamo, mi sembra tutto sono freddo. Si abbia luce. E il capo di positivo, no, io ho visto male, non ne ho mai comprato, non ne comprerò. Già mi ascolto il telegiornale, bene o male, in televisione. E niente. Il caffè me lo faccio a casa, una bella gaffitina, domani a mangiare un ghizzo. E mi dura esattamente a mezz'ora. Ah, vero. Perché io il caffè purtroppo ne bevo un mezzo. Ma niente di particolare, me ne mangio a casa, riposo, al calduccio. E poi lunedì ne riparleremo. Lunedì c'è un po' freddo, noi lo vogliamo, anche solo, ma adesso ci vorrebbe un po' di prima, la mamma resisteva, ha un po' girato un po' le due palline, ci vorrebbero due settimane di tregua, di quelle un po' primaverine, così con un po' di sole. Vedrai, mi. Io sono sicuro, mi, oggi, domani e lunedì, che c'è freddo per come ne stavo parlando alla televisione, però da martedì a quello che ho capito il tempo inizia a migliorare. Speriamo bene, ci vuole un po' di... anche io, vabbè, un bel poco così. Va bene che vogliamo già il tempo suo, però... magari un pochettino passato, vuoi ci far riposare anche un po', sennò io gli altri. Lui l'anno scorso, la verità, già era voluto di più, ma comunque ha fatto, diciamo che ha fatto sbraccio un po' così, gennaio, un po' febbraio, e poi però ci ha fatto, per esempio ci ha fatto lavorare bene a marzo. Beh, a marzo il tempo era già buono, non ci potevamo lamentare, davvero, ma speriamo bene, Vela, che purtroppo noi che lavoriamo a stare così nell'umido e coso, non è che ci faccia troppo bene. perché purtroppo sale sul camion e nel camion si sta bene, però quando ti stai già scaldando ti tocca tornare a parà, applicato alla freddo, e sono quegli sbalzi di colpo d'aria che ci fregano. Però sono all'inizio, dottore Dolore, sono all'inizio, sale, scendi, eva, e colpo d'aria, freddo, come tutte le mani, oggi, stiamo aprire la sportella passata, cazzo, ma deve avere un coso, un po' un ombro, porca mia, c'è ancora la moto, per molto caro è tutto spisteri, Gappa, ma vediamo se è entrato Pompugno, che è andato a vedere cosa stava combinando il cane. Pompugno, ci sei? Pompugno ti seguendo Lugani. Ma che fuggito è? No, credeva che era entrato a sporcare, e sicuramente è sporcato, adesso lo sta inseguendo. Ma che c'è la voce di Lugani? No, fuggito no, è dentro casa, ma no. Sai come c'è Lugani, gli andò in brutta, sai che gli andò in zecca ne fa culillo, e che in casa non deve in brutta, e allora se si bugge, si bua. Magari ha parlato troppo a toglierlo. Ma che credo che l'abbia fatta davanti, non è che... Solamente che lui stava parlando al malacchino e non si era accorto che il cane era entrato, la figlia. E quando se ne ha pensato, Lugani si sarebbe fuggito. Ma che cane è? Quando? Ah, un Princess, ciao. Ah, io parlo a c'è il mio rito. E allora va, un po' l'altro quasi, là. La pagappa. Ma come no? Se era stata in taglia grossa, gliela quasi metà palla, ma la mia minorito già. Se non è tanto sarà un corredito di nutta, là. Minoriti. Ah, scappa di positivo, è così, non è che siano grandi. Sì, però da sempre fastidio, cioè, con tutto lo gatto che vanno, gli ribusi pure già, so, tu sei a cagare, e la buzzi la prendono in casa e rompere i fatturi. Beh, chi so sì, certo, la rompere scatto. Beh, ma a volte, magari, bisogna insegnarlo anche, insomma, vegliare con i romanzichini pure, per dire, non fa più nulla. Però magari anche delle volte anche il cane si trova a dover avere dei bisogni magari un po' più frequenti del solito in qualche giornata, e quindi può anche scapparvi, E quello sì, può capitare. Il cane come noi, noi ogni mattina andiamo. È vero, niente, però ci sono giorni che andiamo anche due volte, che magari, non so, bevi il caffè e poi bevi l'acqua fredda e magari la ziga che cucina e dobbiamo andare. Così è anche il cane, basta che ci sia uno sbalzo di temperatura, ok, e può succedere anche a lui. Sì, perché... per quanto riguarda il caffè e l'acqua, quella è sempre una reazione, non penso sia una reazione chimica, da. No, soprattutto la Romiglia Romar, o in certi bar che fanno la desalinizzazione una volta all'anno, che non la fate nel frequente, lì si è attivata le corri davvero, Il caffè è positivo, già lo so già, a me molte volte andare in bagno la mattina, uscire, poi magari a pranzo non sei in casa, sei fuori, perché molte volte mi succede, e vai lì, ti mangi una cosa, ti pigli il caffè, ti bevi l'acqua, che poi l'acqua la tengono sempre dentro quei cose del frigorifero, mi levo a casa di venire i cosi, ma gli devi curare a viso. Forse è tipo reazione chimica, mamma mia, e già lo so già, una volta ho preso un caffè da un bar, già non era assai, era, infatti non aveva visto tutto l'altro, allora ho trovato in tempo mi è capitato, già. E poi come ti dici di poco a poco, non so come ti dici, hai tutto. Perché sono sempre quelli che vanno via e quindi bisogna ripopolarli. me ne ha dato, forse perché io sono fabbrico, non me ne ha dato per quello, perché io non so tutte le medicine che posso pigliare, guarda, scusa, io sono fabbrico. No, essere germinato non è una medicina che fa male, no? Niente, mi ha detto, mi ha mandato a dire a mio figlio di mangiare in bianco e di mangiare molto riso, però senza niente, un goccino d'olio d'oliva e basta, e le patate bollite e senza condimento, senza niente, un pizzichino di sale, mi ha detto, basta. Mi ha detto di mangiare, tanto ne voglio mangiare. Solidare cose degli intestini deve essere. E anche per la roba solida, capito? Perché se no con la roba liquida da ancora forte ancora. È naturale, il viso poi tende a stringere, certamente, quello sì, fantastico. Sono negative le verdure cotte, specialmente cotte, che padre, quando le cucine padre più male, e invece una volta mangiava le due e quelle continuava, e quando le cose non si sanno, e infatti il riso è proprio questa soluzione, quando si è così è proprio, diciamo, la sua cosa naturale, che stringe. Ma oggi non è che sono al 100%, però oggi confronto a questi tre giorni scorsi sto già meglio. A me quel giorno che ce l'avevo mi ha preso, non so se tu ha fatto già te, i dolori al basso ventre. Piglia, a me ne ha pigliato a vomiti e a diarrea, però con la scusa della diarrea a me mi faceva male anche la pancia, e siccome io sono stato operato alla aorta, è così che il mio dottore da mio figlio mi ha mandato a dire di mangiare molte patate e molto riso, però in bianco, senza nulla. E se avevo ancora problemi di dolori, di andare all'ospedale. E invece, grazie a Dio, con la cura delle patate e del riso, i dolori mi sono passati, e anche la diarrea, anche i vomiti mi sono passati. E ti sto dicendo che oggi sto già meglio, infatti oggi sono alla radio, ieri non ci sono entrato, avanti ieri non ci sono entrato perché stavo male. Sono cose fastidiose, ma la sorte quando io che mi dica è più fastidioso il mal di denti, ma anche il mal di pancia, ma la sorte anche da me trovo delle malattie. Se ti sto dicendo, guarda che io quando mi sentivo aria, che dovevo per dire fare aria, dovevo andare in bagno perché avevo paura che mi scendesse liquido, capito? Ed ero sempre assustato. Se vuoi essere rientrato qualcuno, Giuseppe ci sì. Giuseppe non c'è, buon buio. Sì? Ah già ci sì allora, è bene, un cane pigliato dai. Ho cerato adesso. Sta per entrando da cenare. Ha cenato nel frattempo. Cazza. Ma lui si mi sei chiesto Lugani. Ha visto, ma hai detto che era entrato Lugani, che direttamente sei che aveva bruttato. Siccome stavo mangiando la pasta mia, anche mia dove l'ha giocata dal coso, mi sono mangiato io la pasta mia e lui l'ha fatta la sua. Ma ce la faccio, la fai mangiare dalla pentola. A pagare, a me mi sembra che sia un po' furbino quel cane. Prendi te la pompo. Devi portare l'onfio, eh. cazzo c'è un vento fuori? Come sono niente che sta parlando da sola a parte vostra, ascoltare. In compagnia mia di vela. Salto di vela, mi hai sentito. E anche a Mario. Già questa cosa, aspetta. Ciao. Non ho sentito, stavo facendo dei discorsi di coso. Di roba liquida. Di acqua? Di cacca? Di cacca, di cacca. Ma già è buona. Fatto pagare il comune. Frequenza. Cosa ne pensi tu, Vela? Oh, il colore Scorpomoio. Non pugna, mi ha detto, aspetta, qui non devi andare. Io ho detto, no, cioè voglio rimanere qui a rompere le balle ancora tre queste. Chi anda a Mini, l'ho visto con me, c'è di blu primo. Ah, aspetta, faccio un esperimento due secondi. Che fate, Mario, meglio non pensare, meglio rimane chi mi parava. Non parava, ma sempre, arrivare, lo dico e esagerà, ma arrivare manca 90 anni. E dico, parava, così, parava, e da voi, domani parava, da voi, la tua è sempre parava, capito, sempre così. Gatta, gatta, avanti o là. Parava è morto. Non è che muscio. Chi è per l'esperimento? Buon buono. Buon qui, aspetta, una cosetta veloce, veloce, saltando subito. E noi sembra che si tenda a Edo. E beh, a tu, voglio svegliati. Ciao, e già. Adesso, vediamo e ci svegliamo già. Mi sono collassato, accorcendo, e mi sono chiusi gli occhi poco fa. Ma adesso già mi sono ripreso. Ma adesso si è collassato anche Giuseppe, perché non ha più risposto. No, Giuseppe è andata gente a casa sua, ha suonato il campanello e non sapeva manco chi era. Speriamo che non sia niente di particolare, va? No, quasi c'è stato qualcuno che è andato a farle visita, non lo so. E se sei andata niente a farle visita, un conto, pusciati non sei andato a regalarmi neri. Penso proprio di no. Prego. Avanti. Mario. Regalarmi. Macchino acceso e la televisione accesa e mi sono messo un campanello che attuavano i gabinieri, stiamo cercando, hanno conosce nessuno io. Arrivederci, non si sta accaduto, io la in mancia. Aio. Così. Se ti ascolto bene. Quanto sono i segnali adesso? 1, 2, 3, 4, 5, 6? 9, 20. E poco fa come ero? Più basso? Sì, ma di poca cosa. Adesso sono 9, 20 pieno. E c'è la tela di una finestra dalla parte di cosa, là? Di via Carlo Felice adesso. Attaccato a una secca dal letto. Ma te ne trova magnetica, come va? Meglio o peggio? Mi ascolti Anto? Lo dico io perché qua si è difficile arrivare. Se di solito si salta allo 3, così si salta a 8, quasi 9. Se cambia la situazione da una parte all'altra. Allora già va bene, da? Ok, lasciamo così. Ma così eri molto meglio, Ale. E tu sei quasi 5, qua figurati. La fischia. No, eh? Ora. Ho messo la stecca del letto, quella del fianco, fuori la finestra con la magnetica. L'ho fatto uscire dalla finestra qua. Ora finirà sempre così. E qua vive, sono qua, cioè, io facevo fatica a ascoltarti, anche perché c'è il QRM alto. Ma c'è il problema che non posso stare alla finestra aperta qua, se no diventa un freddo. No, già ho capito, faccio una stecca sopra il tetto e piazzo la stecca così. D'accordo, riprendi Giuseppe. Ah, Giuseppe, intendo a me. Vabbè, già mi hai capito. Monta lepre. Vabbè, adesso sì, di varie, succede, succede. E giù crolla. Ma tu arrivi quasi 9.30 qua, cosa arriva quasi 9.10? Cosa vede? A metà allora ho di segnale. Tu come ascolti Falchetto? 9.20. Meglio di prima? A voglia. Ok, ok, allora c'è ragione io, se io ho piatto questa tenere 5 ottavi con un paletto attaccato contro i radiali, a voglia parte e avanza, altro che matto vai. Raga, andiamo bene, riprendi Mario. Ehi, ok, molte volte, mi vuoi dire a te non ci c'è, se poi ti intrippi. Ehi, ehi, lavoro, già succede, non c'è problema, vado, andrà bene bene. Che, non ti è piaciuta quella dei carabinieri? Ehi, ehi, mi sono modificato. E beh, cosa tanto vivo, no? Beh, Mario, già lo grido io. Ma come? Oh, come c'è nessuno? Ciao, ciao. Ehi, che tu dici? E poi noi da uno, cazzo erano in quattro, italiani. Di Sardona. Mi è chiaro che ci sono mezzo ambulanti, che vendono farina. No, voglio fare un coro normale. Sì, no, ma è farina speciale, dice. Ah, rissa, allora, se rissa speciale, no, non è volivo. Gappa, gappa, infatti io ho detto che non conosce nessuno. Ma come, se tanti lo ha detto, ma non come se hai giocato a dire faccia. Sta farina strana, Mario, non lo sai domenica scorsa, tutta domenica scorsa, qua sotto casa. Sotto casa tua? Ma com'è tu sei in campagna? Sotto, qua sotto casa, c'è una macchina parcheggiata. No, c'è la pattuglia, sono passato, si ferma e tornano indietro, mi guardano, tutto a posto. E come lo fate montarlo? L'autoradio, come va bene, arrivederci, buona domenica, buona domenica, se non è buona domenica dipende da te. Infatti, ma oggi bisogna essere un bel attenti, ma tutto è, no, a me un anno lo stesso, sono andato lì al mare, però anziché mettermi proprio alla parte del mare, mi sono messo alla parte della pinetta. Cazzo, allora la macchina parcheggiata, lui la mia pinetta, se lo mette la macchina non si entra dentro, allora si è sempre in ghibi, e poi non li la vedi, a chi la usai, a Don Brattamona come te. E se non mi preparendi le cose, ma pure magna, papà, no. Cazzate con i carabinieri. Ma sono passati, non dico che erano veloci, ma io va via in un passo. Ma sai, boom! Vedi nella macchina bussa di traverso in giro il coso della binetta. Boom, si blocca, tornano in dalizio. Cazzo, se devo fare della macchina, sono giunto a cucurla. Cosa state facendo? Allora, ci siamo fermati a fare un picchinicchi, perché vi è tanto. Dice no, tutto a posto, arrivederci, se ne sono andati. Allora intanto se ne sono fermati, se ne sono parati, sono giunto a controllare. Ma cosa mi buttano un bel sacco i soldi, no? E anche penso che arrivi a casa con cammi. E mi hanno tenuto quasi un'ora che mi hanno controllato tutto quanto lo cagno, mi hanno fatto buone sabbia che mi hanno fatto buone me, e che dire di forse quasi di adesso ne la guiva, e a me mi sono fatta tanta la sabbia che se la guiva via un cagno e iniziava a patinare con questo della sabbia, ma cari dai. Un'ora mi hanno detto che mi sono controllato i miei gommi, i documenti. Cazzo, da poi mi faccio un sacco di domande per vedere se aveva vinto, e sta qua non avete compreso, so che sacco, sono rientrato dalla Maddalena e non vengo ora ad arrivare a casa. E intanto è di cazzo sempre si scende, da poi mi accomodi, mi hanno mollato e mi sono voluto da parlare con Luca e mi fa un cammino dalla sabbia. Sassari, niente, però a lui, cazzo, sembrava che lo aspettavano con l'orologio in mano, come ti passava lui viene prima a dargli il giornale, ma quando mai ne vai bene il tempo a che tu vuoi il giornale, vai a occupare il giardino. Documenti, gli su e da tipi di tappa, e li hanno trattenendo me. Vedi che la luce mi sono abbocato lo cilindro, la bombina, ha detto che guardi, a me o mi fa andare via, se non sto telefonando al comando e mi faccio denunciare pure per omissione di soccorso, perché se io non arrivo in orario all'aeroporto, denuncio a voi, perché loro denunciano a me per omissione di soccorso, e io denuncio a voi per abuso di potere, perché io vi ho detto che stavo andando a pigliare il servizio e voi no, che mi siete trattenendo di voi un bene. Cazzo, come te l'ha detto di dire così, che l'ha fatto vedere pure lo tesserino del pompiere? Ci scusi, prego, cazzo, subito l'hanno fatto andare. Per carità, quando agisco male molte volte, mi trattengo, ma poi mi rendo conto che non è che posso trattenere più di tanto, so che loro se ne accusano. Veramente fanno schifo, certi si trovi che sono, cioè ce ne sono gentili, ma ce ne sono certi che parlano di vulcani, pare. Sembra che non siano anche loro uomini, sembrano che siano loro come ti per un considerare, siano in chissà che cosa, che possono far tutto. Sembrano persone che devono vivere su questa terra, da tutto quello, non so. Non sanno che poi prima o poi quella divisa la devono togliere e devono vivere da persone normali anche loro. C'è il capo del positivo, ma no, c'è. No, a me mi dà fastidio quando si credono di essere delle persone che non vengono controllate, cioè per controllare bisogna che conosci un bel niente in asso, anche se no non riesci mai a controllarli. Cioè è di base di rubare, un cattivo tempo, come se rimane le piace. Infatti, purtroppo la maggior parte sono così, la maggior parte non si rendono conto di essere anche loro uomini, di essere padri di famiglia soprattutto, si accaniscono con una maniera incredibile, cioè chi te camiglio, chi te, cioè chi un po' le fa male, ma a farti male, capito? Capo, già lo so già. Ma già ci sarà sempre qualcuno che prima o poi dovranno rendere conto, anche tutti gli altri che si abusano di padre, non è che siano arrivo, non è che sono neanche liciti, cazzo, a me l'ultima volta che mi hanno fermato col cannoncino stavo andando a Bolotola e lui era una rima di chi si difemi, che fazia tanto di che deva, che la metà e lasciava. E io dovevo andare a Bolotola a fare una consegna. E mi hanno fermato lì a Campeda, mi hanno fatto fermare. Messo la freccia, io mi sono porteggiato. Sono venuti i documenti qui e là. E fa, accenda le luci, ha detto le luci sono accese, dice c'ha le luci di posizione posteriori che non si accendono. Ho detto guardi, la giornata è quella che è, io quando sono partito stavano funzionando, può darsi che sia schizzato dell'acqua o cosa e abbia bruciato le lampadine, beh mi hanno bucato i tre punti dalla patente, ma ne va tu 75 euro di verbale. Ma tu quella potevi ricorrere in appello perché dietro tu non ci sia a guardare quelle cose, questa è una cosa strana lo stesso. Comunque sapete che potevi ricorrere in appello al giudice di pace, te li toglievano quelle cose lì. Vabbè, il verbale se l'ha pagato la ditta. Butti la patente e mi viene bugati, ma adesso ci chiede venga, non 5-3. No, guarda, questo per i parole di dietro mi giunge nuovo anche questo, davanti sì che sei consapevole che ce l'hai davanti, e se non le cambi, certamente. me mi ha fatto il verbale, mi ha già filmato e mi sono andato. Però il medico si sono attaccati in blu con una lampadina. Perché la notizia era pubblicata, però mi sembra che loro hanno perso. adesso per il fattore dicendo che per colpo tu rispettava la polizia stradale. Già, Mario, cioè l'importante è proprio non ti sente. Ti ho sentito io però, io mi sento senza problemi. Aspetta, ma come ti mai Mario è scendito un po' di distorto? Invece era portante, però non faceva niente, dai. Comunque mi ha detto proprio, avvisati che c'era portante. C'è gente parlando sotto, bassa bassa. Chiappa, no, qua no, non c'è nessun problema qua. Qua io... la televisione di quello stronzo lì. Comunque qua passi alla grande, io ho seguito tutto il discorso. Sì Mario, è così. Cioè, lo stavo leggendo anch'io quell'articolo l'altro giorno, così di sfuggita. Mario. Io passo il QRT, dai, che mi ci sono contro un mese. Saluto a te, a Vela e a Giulia. Buonanotte a tutte le prossime, ciao da parte mia. Ciao, perché? Scusa, ti abbiamo lasciato il parcheggio, credevo di andare tu via. No, non c'è problema, già stavo ascoltando lo stesso. Ok, allora ci siamo contro un mese, dai. La riascoltiamo domani mattina se coincide, dai. Ciao, buonanotte, io chiudo le trasmissioni. Ciao Antonio, ciao Vela e eventuali ascoltori. Ciao a tutti, buonanotte. Ciao perché, buonanotte, buon tutto e buona giornata per domani. Alla prossima, vai a tu. Ciao, buonanotte perché, buon tutto, ci risentiamo alle prossime. Comunque qua Mario non ci sta nessun problema, qua io che scendi male, cioè perché sentivo appena questa pernacchietta sotto, ma roba di poco proprio, e io qua ti sento benissimo, no, la portante non ti va venuta a portare anche a domani mattina, però adesso c'è stata la conferma che ma portante è proprio da chi da parte, perché qua è sparato. Mia nipote, murava a Vela, come te murato tu che era stato la portante in salita, se tu dia, non so, quella televisione, o se anche tu lo fa vedere così. Ma Antonello, pupù, ancora ci sei? Antonello. Tu, Antonella, ti ha cadduto il vacone, ci sei dormito. Chiappa. Non penso che a me mi faccia niente, non mi fa niente qua. Ma come non fa niente neanche a te, tu mi arrivi sparato. Però la cosa è da chi da parte, la ragione. È così. E qua non c'è nessun problema. Bene, allora se vi attendo i piatturi. Niente, vabbè. Vela, ci senti? Adesso sì. Adesso senti il dittino. Si sta grattando le piattole. Chiappa, io ho un fiammone, due. Per Dio, che... Io cosa vivo di fare? Ah, io non vivo su nulla, io lo ignoro proprio perché tuo padre quando parla lo sento benissimo, a te ti sento benissimo, così che a me non mi va né caldo né freddo, mi dispiace se tuo padre non mi sente. Sì, perché è chiaro segno che da quella parte sua è l'importante, perché qua non fa nulla, e qua mi ero sparato. Mi senti questa cosa appena, ma non... No, niente, avrebbe sparato qua. Se invece qualcuno avrebbe sparato questo verme, allora ho fatto un favore. Sento scemo, Vabbè, ma quando scappati bisogna lasciarli giocare, se non giocare solo con quel modo lì, e noi gli daremo Yuga, magari Yuga è una diurita. Ciao, il signorino non sa che qua ci sono due postazioni, quindi se non si riesce a far vedere da una parte si riesce a far vedere dall'altra, che sia poco ma sicuro. Per il progettivo. Aspetta, adesso aumento un po' l'altro. Allora il tempo corretto, la notte. Ma io ho un freddo, no, che in casa gli hanno vennaggio, almeno. Non verme in Parigi un vennaggio, però mi sono risapendo il naso, e ho lavato, e mi ci crocco, prendete un mezzo brasiliano, e da voi domani e domenica avevo una salita. Aspetta, quanto mi picca per la radice? Io faccio tre caffettiere da sì tutto il giorno. Mi sa, io manco uno ne dico. Ehi, di non di bimbo sacca di rimane. No, perché il caffè non mi fa tanto, mi un po' su cappuccino, ma niente di particolare. Io bevo solo caffè, il cappuccino non ne bevo. È difficile che io beva latte. Il caffè è tuo magliettaggio. Ah, perché ti fa male? No, è da quando avevo, diciamo così, 18 anni che me ne sono andato da casa di mia madre, che non ho pigliato più latte. Prima c'era mia madre quando avevo 18 anni e mi preparava la colazione, la mattina trovavo sempre tutto pronto. Poi che me ne sono andato da casa di mia madre, cappuccino, latte, non ne ho più pigliato, pigliavo solo il caffè e via. Caffa, quindi non sei venuta neanche più la voglia di berlo, niente? No, nulla, niente latte, solo caffè. No, a me piace un bel invece. Invece un bel, solo che qualche volta sospendo, bevo anche il tè. Bevo perché qualche volta esagero troppo magari e poi tocca bere il tè perché mi fa andare in bagno. Gappa gappa. No, io latte no. Il caffè sì. Caffè ne bevo un bel. Poi qui a casa proprio sono un'esagerazione perché sei davanti al computer, sei davanti alla televisione, o al baracchino, ma Giuseppe è andato per un caffè vicino. Allora mi ne bisogna un altro po' che mi si cocco, così mi scatta la pancia. Al manco il caldo un po', guarda, però caldo. Cappa cappa, vabbè, ciao Vela, buonanotte, buon tutto. Io chiudo le trasmissioni perché si è fatto un po' tardino. E niente, ce la risentiamo alle prossime. Ciao a tu, tutte le prossime, buonanotte anche a te. E ce la riascoltiamo. E al robotantista, ti seguirà Chiara di Biattoli. A vero, nulla, ce la sentiamo tutte le prossime. Ciao ciao. Ciao, buonanotte Mario, buon tutto dai. Ce la ascoltiamo domani. Ciao ciao, buonanotte. Ciao, buonanotte Mario, dai, ce la ascoltiamo domani le prossime. Ciao ciao, buonanotte. Ok, ci ha chiuso.